collegherò alla fine con i miei amici, mai una gioia, perché sicuramente mi daranno dei risultati che non mi renderanno felice. Mentre per quanto vi riguarda, sapete perfettamente il numero degli sms, 349-238-6666. Io invece, abbiamo sentito Roberto in una bellissima poesia di Gianni Rodari, ora sentiamoci Lo Chevalier in un doppiaggio straordinario, bello, tratto da un film storico come Il Padrino 3, dove tu eri Andy Garcia, o Andy Garcia era te, insomma. Eravamo un tutt'uno, io esatto. La sua voce e lui il mio corpo. Esattamente, Andy Garcia, Roberto Chevalier, Il Padrino 3. Avanti, lasciala. No, scannala! Che hai detto? Gli ho detto di scannarla, per Dio! Ok, amico, lasciala. Molla tu la pistola, se no la scanna davvero. Ma che cazzo dici? Io non la conosco quella. Su, dai, scannala, ma che cazzo me ne fotte? Non hai scelta, quella bionda ci rimette la pelle. E io vi ammazzo tutte e due. Tu molla il coltello, io mollo voi due. T'ho detto scannala, dai, muoviti! Aspetta! Vediamo se ti convinco. Non ti spaventare, non fare mosse improvvise, guardami, d'accordo? Capito che ho detto? Sì. Ok. Cazzo! Lascia il coltello. Avanti, buttalo! Bravo! Seduto, ti devo parlare. Hai fatto bene, siediti, ti devo parlare. Levati la maschera. Di chi è quest'idea? Chi ti manda? Coraggio, parla, chi ti manda? Nessuno! Hai guardato bene questo? Sì! Allora, chi ti manda? Joy Zaza. No! Cattivo. Sì. Sei così, sei. Sono duro e puro. Eccolo là. No, Roberto, tu hai cominciato veramente presto. Stavo dicendo che eri in pensione, ma non era ovviamente un'offesa, che hai cominciato veramente. Io ho cominciato a 5 anni, 31 ottobre 1957, primo contributo. Con controllare all'Empal, si chiamava così. Sì, esattamente. Per cui sei in pensione da... Film Giovani Mariti. Diretto da Mauro Bolognini, con Antonio Cifariello, Antonello Lualdi, Ennio Girolami. Come? Una Guarnieri al debutto. Per cui prima cinema. Prima cinema, com'è successo? Papà, mamma, qualcuno della famiglia? Mamma. Sei figlio d'arte anche tu? No, sei figlio d'arte? Sei? Sono un figlio normale. Un figlio normale. Mamma aveva la mania del cinema. Sapeva che c'erano degli agenti per bambini, portò la mia foto a questa agente per bambini, il quale sapeva che Bolognini cercava un bambino tipo inglese. E... con cognome francese. e feci il primo film e fui doppiato. Dai. Da Ludovica Modugno. No, vabbè. Questa... perché probabilmente stavo già facendo un'altra cosa. E tu doppiato da Ludovica poi. Ma poi in una pubblicità, quando avevo, insomma, mi pare 18, 19 anni, 20 anni, ero sempre fuori in teatro, in giro, in tournée, fui doppiato da Sandro Acerbo. No, vabbè, vendetta assoluta. Vedi però la differenza fra me e te. Io ovviamente come conduttore non è io la trasmissione, ma sei tu, siete voi. Però mi fa ridere il fatto che anch'io ho fatto dei film dimenticabili. Uno dei film dimenticabili, magari il migliore, mezzo destro, mezzo sinistro, doppiato anch'io come da primo chi? Film da in Veneto, da non mi ricordo, ma non era famoso. Io ricordo un tuo film dove mi sei piaciuto tantissimo. No, vabbè. Che... No, vabbè. Se ne vedi. Dove facevi il poliziotto. È uno degli Dalla vita in poi, sì. Non è un porno Dalla vita in giù. No, Dalla vita in poi. Eravate la squadra che proteggeva il giudice. Ah, no, era Borsellino, la morte di Borsellino. Eri bravissimo, straordinario. No, vabbè, tu sei un caro amico. E no, invece parliamo di te, che è una cosa bellissima. Per cui se andava a far provino, Bolognini ha preso e ti ha doppiato Ludovica, che avremo presto, che c'ha una voce da uomo, c'ha una voce forte. Ma all'epoca, insomma, un bambino di 5 anni. Sì, è vero che i bambini una volta li doppiavano le donne. Anche oggi, fino ai 6, 7 anni, 8 anni, se non ci sono bambini disponibili, possono farlo anche le bambine. Perché insomma. Giorgia Lepore doppiò Ricky Schroeder nel Campione di Zeffirelli, l'abbiamo detto proprio l'altra settimana. È vero, perché si assomiglia, sì, le voci possono sembrare quelle. E poi com'è nato il passaggio? E niente, come succede oggi, gli attori con i quali lavoravi si spargevano la voce. C'è un bambino bravo che funziona. Io feci il provino in televisione con Mario Landi. Mi ha doppiato Guido Sagliocca. Ah, Guiduccio. Grazie alla nostra caporedattrice di oggi. Grazie, saluto Alessandro. E allora dicevo, feci il provino con Mario. In commissione c'era Mario Landi in televisione, il quale mi chiamò immediatamente per la diretta. perché si andava in diretta, anche se c'erano le prime registrazioni in vidigrafo che io ho, perché poi l'hanno riprogrammato, Il romanzo d'un maestro con Armando Francioli e la Cosetta Greco. E c'eravamo in tanti piccoli di allora, Claudio Sorrentino, che era più grande e mi proteggeva dagli altri che mi facevano, io ero il più piccolo di tutti e mi facevano i dispetti, Piero Tiberi, Massimo Giuliani, Anna Rita Pasanisi, Rosalinda Galli, una serie di colleghi che già nel 1958 quasi già facevamo la diretta. Cioè tu avevi già un inizio di prostatite, io devo ancora nascere. Esatto. Cioè, già e già chiamavo Giuliano la prostata. stavi così. Sempre. Mamma mia ragazzi, che bello. Loretta Goggi però ancora non l'avevi incontrata. Loretta Goggi l'ho conosciuta, avevo 8 anni, nella Tragedia Americana. Lei entrò in sala prove 4 a Via Teulada con un vestitino, credo fosse di organza, ma tutto... Una cosa che aspetta, mi fa sta zitto che devo revocare questa immagine. No, dobbiamo andare in pubblicità. Se e ammazzate. No, perché la cosa bella, lui sta prendendo le pillole mentre parla, ma sono per la memoria, perché non riesco a capire. Come fai a ricordarti come era vestita Loretta Goggi? Me lo ricordo perché fu un amore a prima vista. Ho capito, ma la chiamo Loretta perché ce l'ho il numero, la chiamerò. Ce l'ho pure io. Però la chiamo. No, mamma mi ha dato una bellissima idea. A tra pochissimo, Voice Anatomy è appena cominciata. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy, al mio fianco Roberto Chevalier, che con grande maestria stava ricordando una storia di 60 anni fa. Quando vide per la prima volta Loretta Goggi entrare negli studi televisivi in Via Teulada, voi stavate facendo quale sceneggiata? Stavamo provando La Tragedia Americana. Che prima si provava, prima di fare... Si facevano delle lunghe prove. Come adesso nelle fiction, esattamente, no? Esattamente. Allora, vuoi che... Sì, raccontami come era vestita. Allora, era vestita con un vestitino, credo, ripeto, di organza azzurrino, con la gonna tutta... Era tutto un completino, tutta la gonna gonfia. Quanti anni ha? Lei è più grande di me? Lei ha 2 anni più di me. L'abbiamo distrutta. E la vidi entrare e un tuffo al cuore immediatamente. Andai da lei, mi presentai e mentre provavamo poi al tavolo, c'era il lungo tavolo dove si leggevano i copioni, io le offrivo le caramelle, ero completamente cotto e Maiano naturalmente mi rimproverò. Anton Giulio Maiano, il grande regista degli sceneggiati veri. E con Loretta poi abbiamo fatto 3822 cose periodico insieme in TV. Sì, io vi ho visto una puntata con Gianni Minoli di Mix, 4 puntate per parlare di quello che hai fatto, quindi rimarremo soltanto Loretta insieme. E l'ultima cosa che lei fece come attrice in TV prima di dedicarsi brillantemente alla carriera di showgirl, perché lei già faceva le imitazioni per noi colleghi quando facevamo Le Stelle Stanno a Guardare, eccetera. L'ultima cosa fu regia di Giuseppe Fina, I passi sulla neve di Mario Soldati, dove finalmente, ma dai, le davo un bacio. Nella fiction. Non che fiction, si chiamavano nella fiction. Nella sceneggiato? Te no, non erano sceneggiato, che... era un originale televisivo. Un originale televisivo. Io avevo 19 anni, 17 o 18, 19, beh, anni, allora non mi ricordo. Fina aveva voluto che mi facessi crescere i baffetti, avevo i capelli tutti indietro alla Mascagni. E finalmente le davo un bacio. Ma un bacio cinematografico? No, cioè, te credo. In televisione credo. Non era possibile. Io ero innamorato e basta. Hai continuato ad essere innamorato per 1000 anni? No, era un amore puro, un amore che era nato da bambini. Io la rispettavo, l'adoravo, l'amavo follemente, ma non le ho mai detto nulla. Lo dissi, lo confessai solamente in quell'intervista a Mixer. E da allora in poi, che era l'intervista a Mixer, credo sia 6-7 anni fa, quando si parla di questa cosa, io lo dico. Ma ho tenuto il segreto per più di 50 anni. Madonna. E se lei avesse... E chi può sapere? Chi può sapere? Certo, seppure te non ci hai provato direttamente. No, mai. Ma lei mai ha ammesso che non gli era indifferente a sto punto? No, perché non c'è mai stata una... Non lo so se l'ha ammesso dopo la cosa di Mister. Non lo so. Io non ne ho... Non l'hai mai so. È meglio non sapere. Come la teoria quantistica, però, certe io cose. Io trovo che è una cosa bellissima, un sentimento vero, puro. Pulito, puro, di bambini, poi... parlo di me, non so se era reciproca. Bambino, pulito, adolescente, poi adolescente, poi primi albori. Dell'omitudine, esatto, l'adolescenza. Ma poi ognuno ha seguito la sua strada senza mai dirselo, senza mai. È stata una cosa bella che ricordo ancora con tanto affetto. E quando io ho tentato durante la pubblicità di chiamare Loretta perché voglio sentire l'altra parte della barricata, perché a parte è stata rispettosissima, non ti sei inventato chissà cosa, no, quale poi non è gossip no, anatomy perché, qua. Perché per la, cui... è la verità, non c'è bisogno di dire le stronzate, è più raffinato, è una raffineria, sì. È una raffineria. Ma dai, noi siamo sdoganati qui dal grande Giuseppe Cruciani, per cui possiamo ogni tanto dire qualcosa in libertà. Tanti messaggi ovviamente. Roberto ha doppiato 1000 personaggi, godo del suo doppiaggio. Da anni per me è Wallace Langham di CSI. Sì, quello sì, è sì, lo so, ogni tanto faccio qualche cosa in qualche puntata. Credo per le caratteristiche del personaggio, dice Nicola, perché? Sei uguale? Che no, sei... Nicola, io non sono, cioè, con tutto il rispetto per l'altra sponda. Il personaggio cominciava che era gay. Sì. Ma non dichiarato, con atteggiamenti eccetera così. E poi i sceneggiatori nel corso dei 15 anni l'hanno fatto diventare quasi normale, tant'è che corteggiava una sua collega del CSI e questa diceva: ma tu sei un po' strano, però sei stato un po' strano, sei strano. L'evoluzione e poi alla fine è diventato normale e io di conseguenza ho seguito sempre l'interpretazione dell'attore, cosa che non riguarda la tua vita, insomma, quello che hai raccontato. Tu hai già le prime pulsioni naturali da uomo a 5 anni, per cui non è quello, no, diciamo... dovrebbe essere un'evoluzione al contrario, perché le epoche vanno verso un altro tipo di... Ragazzi, viva la libertà. Ma assolutamente, e quello, Anna dice, ma è quello che faceva gli sceneggiati in TV degli anni 60-70, io aggiungo anche 50, e non sono sceneggiati ma sono originali televisivi. No, quelli sono sceneggiati. Ho capito, però ma tu devi distinguere, perché per tu ancora non eri inventato, Ma sì, ma io vivevo, io devi allora, Copperfield, me lo ricordo, allora, bianco allora, e nero. Quello era uno sceneggiato. Ho capito. Gli sceneggiati sono quelli tratti da grandi opere letterarie. Sì, ma non mi riprende così, stiamo per radio con 300.000 persone che mi ascoltano, Robby. Bene, ma non è che riprendo te, faccio sì che loro sappiano e capiscano. Poi c'erano gli originali televisivi, gli originali televisivi erano scritti apposta per la televisione. Esatto. Cioè, e le stelle stanno a guardare è uno sceneggiato. Esatto. Ecco, tratto, la cittadella è uno sceneggiato. Tratto da Cronin. Esatto. Esattamente. Esatto. E poi c'erano, se tu non ti vorrei poi ricordare. Ma non mi ricordo. No, che ti ricordi, se sei una vecchia. Ma no, allora, tu sei sì, ma sei incoglionito. Allora, c'erano anche i Vivere Insieme. Che cos'era? Ah, lo vedi che non lo sai. Ma che collezione allora, Armoni? I Vivere Insieme andavano in onda il venerdì ed erano tutti originali televisivi, scritti apposta per la televisione, dove si trattavano i problemi di coppia diretti da Guglielmo Morandi, con tutti i grandi attori, tipo Massimo De Francovic, la moglie Palabaci e tanti altri che erano agli inizi della carriera. Ma il venerdì non c'era la scienza in televisione, TV7 c'era il venerdì. Era il giovedì. Giovedì c'era Mac Buongiorno in televisione, era il quiz. C'erano giovedì. Due canali. Allora, poi c'era. Io tante volte stavo sul primo e sul secondo in contemporanea. No, poi c'era la TV dei ragazzi, dove all'oretta imperavamo, e c'erano anche lì tratti dai libri. Gian Burrasca. No, Gian Burrasca era uno sceneggiato. Oddio! Andava la sera della domenica. Ma come la sera, Gian Burrasca? Sì, la sera. Lina Wiermuller era regista. Sì, signore Sergio Era un serale. Sì, convinto che era il pomeriggio. Ma tu sarai pazzo. Ma non so, pazzo, tu che ti prendi delle cose che ancora ci devi dire che droghe prendi, perché te puoi ricordare. No. Ste cose esattamente. Guarda, tu perché sei ancora giovane. Io ho l'emozione. Tu sei ancora giovane, invecchiando è la memoria a breve termine che va via, non quella a lungo termine. Sì, eh? Quindi io mi ricordo tutto quando ero ragazzino, mi chiedi che ho mangiato 2 minuti fa, non me lo ricordo. Non sa manco chi so io a sto punto, no. Lei è Giuseppe Docet. Insigne. No, Giuseppe Docet. Vabbè, no, è so così. Quando andiamo in pubblicità, Alessandro, già dobbiamo andare e abbiamo un altro ospite. 30 secondi, non abbiamo niente, 30 secondi. Filadelfia, non c'è qualcosa? No, ti posso fare una filmacchia di 30 secondi? Però volevo farlo sentire bene. No, me li gioco così, perdendo tempo, facendomi lì a centrocampo. Preferisco che giocarmi un'interpretazione bellissima di Tom Hanks in Filadelfia. Ci apriamo il terzo blocco e poi parliamo 2 secondi anche con un nostro amico che ci è venuto a trovare. Restate con noi, Voice Anatomy, a tra poco con Roberto Chevalier. Voice Anatomy. Stavamo ascoltando questo trailer, abbiamo riconosciuto qualche collega come Riccardo Rossi, eccetera, eccetera. Ma Ti rubo soltanto pochi minuti, sì. Roberto, perché vado a trovare un caro amico che è un bravo regista, anche Alberto Manni, che l'ho visto a sorpresa perché dovevamo parlare di questa cosa bellissima. Io sono di Monteverde Vecchio, Roma. Soprattutto vecchio, direi. Vecchio. E chissà, a Roma, pieno di attori, ognuno si prende un quartiere per cercare di essere famoso, almeno in quel quartiere, nel suo quartiere, dove c'è anche Luca Barbarossa, Alex Smith, insomma, parecchie persone. C'è una villa, a parte il Gianicolo e Villa Paffini, c'è Villa Sciarra, che è una villa meravigliosa, dove io ho dato il primo bacio, caro Roberto. E la miseria. 11 anni facendo sega al catechismo. Ma questa è un'altra storia. E c'è un gruppo di amici, di grandi professionisti, che stanno cercando di salvare Villa Sciarra. E ciao, allora, Alberto, ciao, fai parte comunque del mondo della voce, visto che insomma, è il tuo lavoro in qualche modo, no? Più che altro di dirigere, non di dirigere. Sì, vabbè, però dirigere è pure Roberto ormai dirige. Il traffico, sì, fra poco. Intanto buongiorno anche ai tuoi radioascoltatori. Bella voce pure, Roberto. Pino, ciao. grazie per l'ospitalità. Che cos'è? Sai, noi siamo un po' un gruppo di cittadini, di quelli che non si arrendono, no? Visto che siamo in ambito cinematografico, ti ricordi Quinto Potere, no? Dove c'erano il conduttore Peter Finch che diceva di aprire la finestra, di dire solo arrabbiato nero, diciamo così. Incazzato nero. Questo incazzato. Non lo tollero più. Esattamente. Ecco, noi facciamo la stessa cosa, solamente che invece di aprire le finestre ci siamo rimboccati le maniche e ci stiamo occupando di Villa Sciarra, che tu conosci bene. È bellissimo, vi invito tutti, ma vicino al Gianicolo, attaccate. Ma sono 6 ettari di un gioiello verde, veramente tra Trastevere, Monteverde Vecchio e il Gianicolo. Un parco meraviglioso, immaginatevi un tripudio di fontane con statue del Settecento, con alberi meravigliosi, fra cui due ginkgo biloba, che è un albero. Un ginkgo biloba? Lo so. Tu conosci perfettamente. Sono quelli dell'ispettore ginkgo, no? Vai, sta zitto, con te parliamo dopo. Pensate che è considerato il fossile vivente, perché è un albero, forse l'albero più antico che c'è sulla Terra. Dopo il pino, vabbè, certo. Ma si attacca la scevalite, sta buono. E quindi insomma stiamo facendo un po' di tutto, occupandoci come tante altre associazioni di cittadini in giro per il nostro paese, di dare la mano, appunto, di non arrendersi. Sappiamo, esatto, che dove non può arrivare la pubblica amministrazione, a questo ci punto possiamo arrivare. Sì, perché non è vogliamo soltanto la pulizia, ma anche dare cultura a uno spazio. E per questo siamo intonati alla trasmissione. Diventare un luogo di aggregazione. No? Assolutamente attivo, sì. E anche insieme al FAI partecipare con Villa Sciarra, stiamo raccogliendo le firme proprio per Villa Sciarra, per i luoghi del cuore. E insomma, è bello, poi sono, i luoghi del cuore è bella questa cosa. Sì, è molto bella questa operazione che ha fatto oramai da diversi anni il FAI di promuovere il nostro paese, di invitare i cittadini a votare il loro luogo del cuore. Per cui, visto che andiamo in tutta Italia tranquillamente, anche andiamo in tutto il mondo, visto che ormai vai sul web tranquillamente, ci sentono dappertutto. Dico solo una cosa per insomma, i radioascoltatori più curiosi, di andare a vedere su YouTube c'è un video dell'Istituto Luce dove nel 1930 la villa viene ceduta a Mussolini, che lo apre perché questa era una delle condizioni per il lascito allo Stato italiano. E c'è questo video meraviglioso con i pavoni che scorrazzano per Villa Sciarra. Andatelo a vedere, dura 2 minuti, Cinegiornale del 1930. Che bello, quelle le magnate in insegno. Sì, no. Dopo il primo bacio, li ha presi tutti, li ha fatti allo spiedo per fare colpo. È rimasto il pavone nella gabbiella lì vicino alla fontanella di Villa Sciarra. E vedo, mi ha dato anche un foglio che c'è da Gershwin Trovaioli il 28 ottobre alle 17. Abbiamo organizzato un concerto dove sono tutti invitati, il concerto è gratuito venerdì all'interno di Villa Sciarra nell'Istituto dei Studi Germanici, che è il Casino Barberini. Facciamo questo concerto per raccogliere fondi e promuovere un'iniziativa del FAI ad Amatrice, questa volta ad Amatrice. Mi sembra una bellissima cosa, è sempre organizzato proprio infatti dal FAI ad Amatrice. E allora, niente, diamoci appuntamento a Villa Sciarra il 28 ottobre prossimo, eccolo. Vi aspettiamo martedì. E poi insomma. No, ma che martedì? Oggi è 23. Venerdì, e poi invito tutti quanti insomma a votare per Villa Sciarra sul sito del FAI. E per chi è interessato, abbiamo la nostra pagina Facebook. Faccio un po' di pubblicità. Fallo tranquillamente. Non è politica questa cosa, è sociale. Per cui amici di Villa Sciarra, insomma, lì si trovano in poi è anche una scusa per altri per scoprire i propri luoghi del cuore. Ognuno c'ha il luogo. Quello è il mio luogo del cuore, assolutamente. Però per altri sarà Villa Ada, per altri piuttosto sarà. Certo, eccetera, certo. Frascati, Villa Torlonio o chissà quante altre situazioni. Non so qual è il luogo del tuo del cuore, Robby. Il luogo del cuore. Parlami vicino al microfono. Il luogo del cuore è dove sto bene. quindi ovunque, anche qui. Uno, nessuno e 100.000. Anche qui, dillo. Anche qui. È falso. Sei falso. Sì, sei falso. Alberto, resta un po' con noi. Volentieri, bella questa cosa. Volentieri, volentieri. Il sito è del FAI o devi lasciare il sito del FAI? Si va sul sito del FAI, FAI Luoghi del Cuore. Noi in questo momento posso dire con orgoglio che siamo primi a Roma per votazioni. E bene. Siamo però siamo una volta tanto che non ci stanno gente che non va a votare, vedi? C'è gente che vota. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Zitto. Vai, macello. Gli chiedo scusa Alberto, ma Roberto era già ospite, capito? Altrimenti avrei cercato di intonarla di più la trasmissione. Un altro messaggio: c'ero anch'io tra i bambini del romanzo di un maestro e me lo ricordo, Chevalier. Mi rimase impresso per la spocchiosità. Eri spocchioso. Non lo so, avevo 5 anni. Guarda, a me mi dicono delle cose. Io lo chiederei a Claudio Sorrentino. Che è Claudio Sorrentino, sì. Che mi proteggeva. Esatto, no, non era un bambino, era timido magari. Questo è Fabio che lo dice. Ma ti ha fatto qualcosa Fabio? Scrivilo tranquillamente. Se non metti un cognome, esatto. Può essere... No. Non so. Io non mi ricordo. Ma sì, ma magari ha avuto un attimo un'impressione... Beh, sai, anch'io posso far finta, posso essere chissà cosa o chissà cos'altro per le persone. L'immaginario collettivo quando sei un personaggio televisivo o che ti beccano in un momento sbagliato... Ma 5 anni che vuoi fare? Ma che vai, sono chiuso a 5 anni... Ora non ne mettevi, vabbè, ma ci sta. Come una signora, la mia prima puntata un anno e mezzo fa ormai, disse: meno male che c'è Pino Insegno a Radio 24, così posso fare pulizia di casa, visto che l'aspirapolvere c'ha la sua stessa voce. Questo è stato il mio primo messaggio, io lo dico sempre, lo racconterò sempre. No, ma sono molto attenti, mi correggono, i congiuntivi è facilissimo, ma anche delle parole filologicamente non dica più laico, è profano, signor Insegno. Mi dicono cosa, beh, Radio 24 ha veramente una grande attenzione, sono attentissimi e sanno veramente molte cose. Ci sentiamo un Philadelphia, nel senso non della pubblicità del formaggio, ma un Tom Hanks straordinario dove Roberto Chevalier mi raccontava prima, hai cominciato dalla fine a doppiare il film. Ho cominciato da quando lui ha la mascherina in ospedale, c'è malattia acclarata. Esatto. E quindi c'era tutto un percorso vocale da seguire perché c'era tutta l'evoluzione della malattia partendo dalla normalità, ma come ci hanno insegnato i grandi del doppiaggio italiano, fai quello che fanno loro. E va bene. E tu l'hai fatto. Vediamo che momento è di Philadelphia. Cosa mi piace di più del diritto? Sì. Il fatto che una volta ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte integrante della giustizia applicata alla realtà. È un'esperienza davvero eccitante quando questo avviene. È bello, emozionante anche questo momento. Dai, il film è bello. Molto, grande bello. Denzel Washington, doppiato da Pannofino. Chi dirigeva? Giorgio Piazza. Oh, indimenticato. Grande. Che voce. Molto vicino come i signori Roberto Chevalier. Tu ami il doppiaggio? Moltissimo, moltissimo. Poi si è fatto, insomma, da professionisti è come fatto voi. Solo, devo dire che il doppiaggio piacere. È fatto sempre. Beh, i doppiatori italiani io li trovo straordinari. Basta che ci diano il tempo per farlo come va fatto. E ormai è diventata posso veramente... dire una cosa devi, cattiva. Ormai. Delle volte riuscite anche a salvare... delle recitazioni fatte sì, questo è vero. Quello però è vero. Però ecco, il doppiaggio è difficile, è una bella forma d'arte, ma purtroppo per esigenze di mercato, crisi economica e quant'altro, si lavora sempre di più e con tempi ipercompressi, per cui diventa sempre più faticoso e più difficile riuscire a dare il meglio e facciamo quello che si può. Adesso arrivano certe fiction, io lunedì e venerdì vanno in onda. Ma sì, ma a parte le fiction, si vuole avere una Ferrari pagandola come una 500, però per fare la Ferrari c'è un tempo. Eh sì, soprattutto per far girare il motore. Anche per la Ferrari non si avvitano le intonazioni, le emozioni non si avvitano, bello, si creano. L'emozione prima non ha voce, adesso non si avvitano. Senti, negli anni la tua voce non è cambiata quasi per niente. Beh, hai fatto qualcosa, la mantieni? No, un'attenta manutenzione. Esatto. Fai il tagliando. Cioè, insomma, tu ce lo vedi Pollini che fa il muratore? No. Con quelle mani? No. E allora, bisogna... Io ancora quando ho un turno difficile, un turno impegnativo, cerco di non fare tardi, cerco di non fare stravizi, faccio vocalizzi, faccio soffumigi, mi controllo dagli otorini, insomma, è il mio strumento di lavoro e di conseguenza come tu ben sai, la voce è l'ultima a invecchiare, ma se ben mantenuta, io ti posso fare solo un esempio. Tu ricorderai Intervista col vampiro. Sì, film, il Tom Cruise. Ha quasi 20 anni quel film. Tu senti la voce mia, di Sandro Acerbo, di Francesco Pannofino, io e Sandro Acerbo siamo uguali. Francesco sembra il nipote, sì, ma non perché lui ha seguito un'altra evoluzione nella vita, cioè è uno che fa 3.000 cose, si stanca, beve, fuma, fa 3.000 cose e la voce cambia. Certo. Io e Sandro siamo stati un po' più attenti, poi anche, diciamo, anche... Vedi, invecchiano i vostri attori, ma voi no. Ci chiamano gli Highlander. Esatto, Brad Pitt comincia a ricevere un pezzo da 50 e passa, come te, vabbè, Tom Cruise non si capisce che fa. Tom Cruise dovrebbe cominciare, secondo me, a tornare anche alle storie, perché... Ma soprattutto a invecchiare, naturalmente. Ma non è tanto quello, perché lui adesso ha 54 anni, ha ancora un bel fisico, però sono 4-5 anni che fa soprattutto film action, però ha fatto dei grandi film, grandissime interpretazioni, come Magnolia, come L'ultimo Samurai, come È nato il 4 luglio, eccetera eccetera. E quanto vi può reggere ancora il fisico? Se non comincia a ritornare anche parallelamente, fare un'infiltrazione, sì, esatto, a ritornare alle storie, si deve assicurare la vecchiaia, la sua e anche la mia. Esatto. Ne vogliamo parlare? Assolutamente. Senti, quanto chiedo ad Alessandro, quanto abbiamo? 5 minuti, per cui io me lo ascolterei, il monologo di Magnolia. Me lo ascolterei volentieri, uno dei tanti monologhi di Magnolia, film sì, straordinario, dove tu... Mi sta parlando, ma c'è il microfono, devi a voce alta. No, Magnolia, io rimasi molto, molto male per lui che non vinse l'Oscar. Vinse un Grammy, ma era veramente bravo, perché lui ha sempre avuto il coraggio di cambiare, tranne, come ripeto, in questi ultimi anni. È perché ha visto, cioè, che non faceva sempre incassava. Lì sì, poi... ma tante interpretazioni diverse. Ma un film che non è andato bene, per esempio, è stato Rock of Ages, dove lui faceva il cantante, tutto andato, tutto fatto, sì, così, e quello è andato male. Però dove doppiava il produttore Grassone nel film, quello di Ben Stiller, il film è andato benissimo e lui era assolutamente godibilissimo. Cioè, è uno che ha il coraggio di osare. Tom, te lo dico io che sono la tua voce. Esatto. Osa. Remember this. Vi siete incontrati? Ciao, la dedica a Robert, thank you for your voice. Thank you for your voice, not for your body. Ma lui, lui è il mio corpo. Esatto, caro. È vero, siamo così. Come dicevamo prima. Ma vi siete incontrati di persona, vi siete salutati, sì, conosciuti, abbracciati. Attento. No, vabbè. Non ho detto niente. Ci abbiamo 2 minuti per sentirci questo bellissimo Magnolia. Guardatelo, è uno straordinario chevalier. Sono piaciuti i nachos? Sì. Sì, ma voi non siete qui per pensare al cibo. No! No, voi siete qui per un solo motivo: perché io vi illumini, giusto, vi aiuti a innalzarvi, vi porti per mano e vi conduca verso un futuro non più così sconosciuto. Perciò restatemi accanto. Come fingere di essere gentili e premurosi. Non mi serve il microfono. Dunque, questo è un capitolo molto importante, come vedrete. Ma arriviamo al concetto fondamentale, partiamo da lì, partiamo dal punto chiave della faccenda. Gli uomini sono merda. Cosa? No, non è vero. Che c'è? Gli uomini sono merda. No. Non è questo che dicono? Sì. Sì, è questo che pensano, perché noi facciamo cose orribili, cose terrificanti, terrificanti, esecrabili davvero, cose che nessuna donna potrebbe mai fare. Le donne non mentono. Le donne non tradiscono. Sono strozzate. Le donne non ci manipolano, per carità. Ora ci siete, vero? Capite cosa fa la società ai nostri cervelli? Oh, poveri bambini. Wow! La donna! Ci insegnano a chiedere perdono. Mi dispiace. Basta! Mi dispiace tanto, baby. Scusami, ti prego. Ma cos'è che... di cosa, eh? Abbiamo bisogno delle loro passerine, del loro amore? Mamma non mi lasciava giocare a calcio e papà... beh, lui mi picchiava, per questo. Sono così, per questo faccio quello che faccio. Che mega cazzate. Hai ragione, è un disastro. Io non chiederò perdono per quello che sono. Non chiederò perdono per le cose di cui ho bisogno. Giusto, bene, Frank. Non chiederò perdono per quello che voglio. Non mi scuserò, Frank. Ok. Ora tirate fuori il vostro opuscolo azzurro e andate a pagina 18 dell'opuscolo azzurro. Ma che cazzo sto facendo? Tirate fuori l'opuscolo. L'opuscolo bianco. Quello vi serve. Pagina 23 dell'opuscolo bianco. Quando finisce il blocco? Eccoci, scusa, stavo chiedendo ad Alessandro. Chiedo scusa. Abbiamo un minuto e stavamo parlando anche. Bellissimo, meraviglioso. Questo qui tu hai vinto un premio. Il Nastro d'Argento, sì, ha vinto per questa, sì, interpretazione. Dunque, allora, eravamo a Taormina. Io ricevevo il Nastro d'Argento per aver doppiato lui in Magnolia. E lui riceveva il Nastro d'Argento alla Carriera. E insieme sul palco presentavamo Mission Impossible. Beh, bella. Sembrava una Mission Impossible stare insieme su un palco. Ma con non puoi capire gli abbracci che mi ha fatto. Ma non voglio indagare su sta storia. Ma perché? Non la voglio, non importa niente. Ma è carino, carino, carino, carino. E ogni volta che ci incontriamo, certo, a qualche prima, lui mi fa: Robert, have you been well? Cioè, stai bene? No, sei trovato bene? Ah, ti sei trovato bene nel film? Addoppiamo. Che carini che siete insieme. Va bene, poi dici perché Nicole Kidman se n'è andata. Complimenti per la trasmissione, ma non parlate mai del ruolo degli assistenti di doppiaggio e dei fori. Ah, io ho parlato tantissimo, assolutamente. Forse me la sono persa. Sì, sì, Massimo, tantissimo, perché il doppiaggio si fa insieme, tutti insieme. Poi lo sottolineerò, lo sottolineo anche nel Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Pino fa qualcosa per il doppiaggio della serie I Medici, te prego, non si può sentire. Io sbagliano pure gli accenti, Roberta, non dipende da me, c'è qualcuno che applaude di là. Non l'ho vista I Medici, io pensavo che fosse un'altra serie tipo AR. Perché tu vedi I Malati? Io pensavo che una serie sugli ospedali all'inizio. Detto me, da, giuro, non pensavo Lorenzo De Medici, un'altra serie su ospedali fanno. Lo so, tesoro, non lo so, non la seguo io, non l'ho anche vista, non so, Dustin Hoffman, c'è, cioè, l'altro sono italiani però, più o meno. Che ne so, manco io la vedo, chi c'ha tempo? No, è vero, stiamo in sala. Va bene, Roberta, farò queste dimostranze. Ci sentiamo fra pochi, se oggi non c'è la diretta Facebook, che Mauro Meconi è impicciato con un film, Alessia Navarro è in teatro con Il Giardino dei Ciliegi, il poro Pino Insegno sta qui perché deve essere qui per voi e con grande piacere lo faccio. A tra pochissimo con Roberto Scioli e Alberto, continua a rimanere qui, un amico di Villa Sciarra e non solo. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Bentornati signori, 15-17 minuti, ormai quasi 18 minuti in questo istante. Roberto Chevalier al mio fianco, voce di tutti, di tutti noi, anche di più. Alberto, ti saluto, è rimasto con noi Alberto Manni, bravissimo regista, per appoggiare questi posti del cuore, queste Villa Sciarra. Votate. Veramente non c'è un politico, non c'è, è sociale questa cosa. Pino, ti ringrazio moltissimo. Grazie a te e a tutti gli amici. Voglio essere fra gli amici di Villa Sciarra. Ma tu lo sei. Sì. No, beh, ce l'ho dentro il cuore. È una meraviglia. Alberto, grazie. Puoi alzarti serenamente, anche se c'è un po' di rumore, non c'è problema. Grazie, non grazie uccidendo a tutti. Ciao Alberto. Io rimango insieme a Roberto perché prima di fargli fare un monologo che abbiamo scoperto, scritto da Tarantino, Quentin, eccetera, Tarantino su Top Gun, noi ci sentiamo un momento invece del film storico Top Gun e sentite che la voce di Roberto, di che anno è Top Gun? 85. Pure questo si ricorda. Ah, scusa, 85-86, quindi quest'anno è il trentennale che è doppio Tom Cruise. No, vabbè, non sta bene. Sentiamo Tom Cruise, ma soprattutto Chevalier in Top Gun. La scommessa è di $20. $20, esatto. Dovrai avere rapporti carnali con una ragazza questa volta qui dentro, sul posto. Qui dentro, sul posto. Coraggio, i patti sono patti. Non so, è che non mi sembra divertente. Per te intendo. Tu non puoi più amarmi. Io che cosa? No. Sì. No, assolutamente, guarda. Vedrai, Gus. Ah, ma dai, ma... Detesto quando fa così. Merda. Adoro quella canzone. Non avevo mai visto usare questo sistema. Da quanto tempo fate questo numero? Ma non saprei. Da... Dalle elementari? Ecco sì, dalle elementari. Io sono Charlotte Blackwood. E io Maverick. Maverick? Stavi antipatica tua madre, per caso? No, è il mio nome di battaglia. Sei un pilota. Infatti, sono un pilota della Marina. Oh. Quel numero lo abbiamo fatto solo due volte. E com'è andata? Con la prima un disastro totale. È stata una cosa terribile. E con la seconda? Non lo so, te lo dirò domani. Ma per il momento non sembra male. Ripeti, ma per il momento non sembra male adesso? Non lo so, ma per il momento non sembra male. Sì, sono passati 31 anni, per lui niente è passato. Che dicevi mentre doppiavamo? Dicevo che avete tagliato il pezzetto dove lui canta. Non chiudi gli occhi, amor, quando bacio le tue labbra. Non c'è dolcezza, amor. Adattamento tuo. Adattamento delle parole italiane mio, perché io sono anche paroliere, musicista, inventore, scultore, pittore. No, il mio nome comincia per Leonardo e finisce per Nancy. Dai, scherzo. Scultore. Ma scherzo, mi sto piattando i fondelli. Scusa, un attimo, ma visto che sono spocchioso. Sei da spocchioso, quando avevo 5 anni eri un po' spocchioso. Davvero mi ti ricordo. Allora, abbiamo scelto con gli amici autori questo monologo scritto da Tarantino, proprio contro a favore di Top Gun. Secondo me è contro. Comunque. Contro. Vediamo che cosa dice. Musica sottofondo, grande Ale. Eccola, 21 grammi la musica. Io di un film voglio sapere qual è il messaggio, qual è la vera essenza del film, capisci? Un grande film si riconosce dal suo vero grado di sovversione ai massimi livelli. Sai qual è il più grande copione del cazzo che sia mai stato scritto nella storia di Hollywood? Top Gun. Top Gun è cazzutissimo! Che cos'è Top Gun? La storia di un branco di piloti da combattimento? No, è la storia di un uomo che combatte la propria omosessualità. Sul serio, questo è il messaggio di Top Gun. Hai presente? C'è Maverick, giusto? Maverick vive al massimo come un vero eroe, sempre in prima linea. Poi c'è Iceman, con tutto il suo equipaggio, giusto? Bene, sono gay. Incarnano l'ideale dell'omosessuale. Il messaggio è vai con i gay. Ma lui è in bilico, non sa scegliere. Kelly McGillis, è chiaro, lei gli dice no, devi venire con me, devi seguire le regole, devi scopare con me. E quelli dicono no, devi venire con noi, diventa gay, sei come noi, sei un gay. Beh, è in questa chiave che devi vedere tutto il film. Io non sono d'accordo. No, cioè, ci sono un paio di inquadrature di compiacimento, se volete, quando giocano a beach volley e quando sono negli spogliatoi tutti a torso nudo, tutti con l'olio, cioè, ma a me sembra veramente un po' tirata per i capelli. Anche perché ragazzi, tra poco farà Top Gun 2, C'è? È in cantiere fra 3 anni. Entro 3 anni lo dovrebbe fare. Adesso lui ha finito di girare La Mummia. Non usa più lui, capito? La Mummia. Che ha girato. Il remake della Mummia. Già l'ha finito. Sta girando Mena. Poi è indeciso se fare prima il prossimo Mission Impossible o prima Top Gun. Top Gun, sicuramente. Intanto ha già fatto Jack Reacher. Io adesso sono al cinema con Jack Reacher 2 e con Inferno di Tom Hanks. Tom Hanks con Inferno. Niente. Stessi al cinema dappertutto, uno cambia sala. Sta nella multisala, c'è Chevalier. Come sulla Rai, no? Tom Cruise l'hai doppiato in Codice d'Onore anche, ovviamente, no? Sempre tu fresca sei. Fresca insalata. Sono quanti anni è che lo doppi? 30? 30 anni abbiamo detto prima. Sì, 30 anni. Ci sono stati un paio di episodi in cui è stato dirottato. Sì, c'è stato un passaggio di tentativi. Ascolta, l'anno scorso ho girato presa diretta come attore con Carlo Carlei, Il Confine, sulla guerra del 15-18, dove io facevo il primo ministro Salandra, che andrà in onda questo dicembre. Questo come attore? Come attore, ho detto, come presa diretta. Questo come attore e andrà in onda a dicembre di quest'anno. E avevo le scene con Cadorna, interpretato da Massimo Popolizio, grandissimo attore, che ha doppiato Tom Cruise sul malaugurato film Eyes Wide Shut. Sai che la prima cosa che mi ha detto Massimo... Scusa? Ti giuro, siamo entrati sulla roulotte trucco e ha fatto Massimo, Roberto, scusami se ti ho doppiato. Sì, ma che c'entri te? E lì è stato il Maldesi, il pazzo scatenato che ti ha scelto, ma tu non c'entri niente, tu hai fatto quello che dovevi. Sì. Perché la storia è molto divertente di come mi fu scippato. Pensa, ho fatto il provino anch'io, gli chiesi, ma non può Chevalier? No, può, e allora perché? No, adesso te la racconto. Come no? Allora, Stanley Kubrick. Un anno prima di morire, Stanley Kubrick chiede la mia biografia professionale. 6 mesi prima di morire chiede 4, allora c'erano le VHS, le videocassette di film dove io doppiavo Tom Cruise. 3 mesi prima di morire chiede la mia biografia personale della mia vita privata con il mio numero di casa. Pensi che volesse farmi fuori? No. Perfetto. Nel momento in cui muore, però, pare abbia detto a Maldesi: Chevalier, no, ti prego. Questa è la versione del Maldesi. Vabbè, Chevalier, no. Tu immagini Kubrick sul letto di morte, certamente. Pensate a te. Certo. Allora, e quindi Maldesi, a cui gli eredi avevano dato carta bianca perché lui ha diretto tutti i film di sì, Kubrick, certo, ha deciso di fare i provini. Sì. E fui chiamato in ultima istanza a fare il provino, perché mi voleva la Warner, e non ricevette alcuna indicazione. Guarda, io non si capiva niente del film come tu hai pensato. Esatto, non lo sapevo neanche io. E non mi fu data alcuna indicazione. Niente, non voleva farti. Cioè, quello che disse Maldesi quel giorno, e lo dico a voce alta, tranquillamente, quando io chiesi, dico: ma scusate, Tom Cruise è Chevalier, nel senso vocale del termine, è perfetto, si sposano, si abbracciano, come Amendola era, poteva essere Stallone e De Niro, nonostante la voce diversa, certo, invece certo, la voce è pure la stessa, oltretutto la vocalità Barbetti, Robert Redford, sì, ne vogliamo capito, parlare. Cioè, voci completamente diverse. In questo caso voi avete la stessa voce, certo, quella velatura che avete nella voce ce l'ha anche lui, tu sei più bravo secondo me, tranquillamente. E lui disse questo: ma non può, Roberto sta male, eccetera. La risposta: no, io voglio un Giannini giovane. E dico: Lui non c'entrava niente. Io feci questa prova e non c'entrava niente. Certo. Cioè, la voce era scollata completamente dal corpo. Niente. E disse: guarda, sono 38 turni. Guarda, ho messo la scusa, sono in tournée. Per cui io mi defilai dopo il primo giorno e non aspettai neanche la risposta di Mario. Ho saputo dopo che l'altro provinante era il bravissimo e amico Massimo Popolizio, che è persona di primissimo ordine, assolutamente, che va bene sull'Amleto Kenebrana, ma va bene sul ma vogliamo parlare del Pianista sull'Oceano, che capolavoro, però su Tom Cruise no, su Bruce Willis nel Trapanatore di Comete, anche su Magnolia fece i provini, all'ultimo dovettero tornare su di te, su Magnolia, certo, assolutamente, certo. A parte quando sei stato scippato un amico che comunque anche lì è stato un amico che poi ha preso la sollevazione popolare. Sì, ci fu veramente la prima volta, come quando andò via Signori da Lazio, è successa la stessa cosa. Chevalier su fuori sotto con cose, sono scesi in campo. Non è mai successo. No, la stampa, le mail, sì, i fan che sono molto attenti. È tutto superato, tutto superato. Qualcuno chiede se ti ha fatto pubblicità dei Scientology, Tom Cruise. No. Ma a parte che ci siamo sempre visti per pochissimi certo, minuti, ma è tutto un altro pianeta. Bello, qui fanno, vabbè, congratulazioni alla trasmissione, quelle le leggo con piacere, ma insomma non è quello che sottolineo, ecco, sono un po' attento. Altri complimenti a Roberto Chevalier. Se volete fate delle domande anche impegnative, noi certo, come vedete parliamo serenamente di tutto e di più senza peli sulla lingua. Tu c'hai i baffi, quindi esatto, sulla lingua. Qualcosa. Senti, a cosa sei più affezionato di carriera? Tua, quella televisiva, degli sceneggiati origine televisivi, come attore di cinema, come attore doppio di teatro. Teatro. E l'esperienza al Piccolo di Milano con Strehler è stata formativa. No, ma tu non sai una cosa, adesso ti racconto quello che ha determinato la svolta della mia carriera. Lo sliding doors. Quindi io nel 77 vengo, dunque mi chiamò già Strehler quando avevo 9 anni per fare il Galileo con Tino Buazzelli. E io ero in televisione, stavo facendo Pel di Carota, non ci potevi andare. Madonna! Ti proposero Galileo e tu stavi facendo Pel di Carota. Sì. Però non è e inaugurai la Sede Rai di Napoli nel 61. Nel 77 mi chiama, senza nessun provino, senza niente, per fare l'Arlecchino Servitore di Due Padroni, il ruolo di Silvio. E io vado, felicissimo, perché era il sogno della mia vita lavorare con Strehler, e cominciamo a fare tournée in giro per il mondo, in Italia, e lui gli piaccio da morire e dice: questo ragazzo è bravo, bisogna farlo lavorare. Quindi subito dopo feci La Scuola delle Mogli e per 4 anni feci questi 2 spettacoli. E allora, resta qui perché dobbiamo rimanere l'ultimo blocco insieme a te, ma dobbiamo andare in pubblicità. Ok, a dopo. Ho detto allora che servivano 2-3 trasmissioni, Chevalier. ritorno, eh? Devi, perché finirà la prima parte questa. Ma neanche. Roberto Chevalier, prima parte. Faccio neppure l'oretta Goggi. A tra poco per l'ultimo momento insieme con Roberto Chevalier, che oggi si alternerà a un'altra grandissima attrice, doppiatrice. Va bene. Ecco, mi hanno messo un risultato. A favore della squadra in casa? Vero? Grazie, siete molto carini tutti e due. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Voice Anatomy. Bentornati signori, 15, 34 primi e 58, vabbè 35, dai, arrotondiamo. Roberto Cevalì ancora per 10 minuti con noi e tanti messaggi, tantissimi. Fino io ormai guardo i film solo per indovinare chi sono i doppiatori. Dalla trama chi se ne frega, dice Walter. È verissimo, sei bravo, riesci a fare una trasmissione di spessore intellettivo, grazie, e professionale insieme ai tuoi grandissimi ospiti. Come si dice, la passione si sente. Un abbraccio a te e a Roberto Chevalier da Luciano Conti da Corsivo. Bellissimo, sembra un nome altisonante. E poi a proposito dei medici, mi lascia perplesso che stranieri facciano un prodotto sulla nostra storia, non per orgoglio, ma è la vendetta per gli spaghetti western, che mi dice Roberto? No, ma non lo so, anzi hanno avuto un successo. Il mondo dell'arte è vasto, è vario. Senti, anche Chevalier ha cominciato doppiando i film porno. Sì, ho fatto anche anch'io. Tu? Poi vi racconterò un aneddoto. No, adesso devi fare, o turni. Poi dobbiamo turni. Riprendere lì dal teatro. Allora, sì. L'aneddoto da raccontare è questo. Direttore Pino Locchi, stabilimento Vecchia Fonoroma. James Io Bond, avrei Pino avuto 18 anni e lui mi doppiavamo un film muto. Allora Pino Locchi mi porta in sala e dice: guarda Robertino, tu devi dire questa battuta. Evviva il negronetto. Ti tocco sulla spalla quando la devi dire. Dico, va bene. Io dico, evviva il negronetto! Era un membro di un negro enorme. No. Pino Locchi aveva molto senso dell'umorismo. Tantissimo. E questa è stata la mia avventura. Vabbè, io ho doppiato Eiaculazione da Tiffany, per cui guarda, nessuno la può battere. Vabbè, tanti commenti. Parlavamo del teatro. Hai avuto questa bella avventura con quel signore, sì, che si chiamava Giorgio Streller. Dopo 4 anni che appunto lavoravo lì, lui si innamorò artisticamente di me e disse: questo ragazzo è bravo, bisogna farlo lavorare. E sarei dovuto diventare il piccolo per il piccolo, l'attore giovane fisso, e poi sperando di riuscire nella carriera come Franco Graziosi e Tino Carraro, diventare primo attore eccetera da adulto. Mentre ero in tournée con l'Arlecchino in Giappone, a Tokyo. In Giappone? Sì. Beh, già del mondo quell'Arlecchino. Soleri sì, era Ferruccio Soleri. Purtroppo mio padre si ammalò gravemente, repentinamente, di cirrosi epatica. Io feci in tempo a rientrare in Italia e vederlo e abbracciarlo, e poi dovevo tornare a debuttare a Milano. Stavo in palcoscenico e mio padre morì. E mia madre, come reazione fisica, ebbe un tumore bruttissimo. E quindi ero sposato da poco, avevo Davide che aveva appena 3 anni, e avevamo pensato con la mia ex moglie, perché nel frattempo ho divorziato eccetera, avevamo pensato di trasferirci a Milano, ma con la malattia, la morte di papà, la malattia di mamma, e mia moglie nel frattempo ci aveva anche un po' ripensato, perché per il suo lavoro era difficile trasferirsi a Milano, Davide era piccolo, mi trovai a un bivio: scegliere la carriera o gli affetti, seguire mio figlio, mia moglie e mia madre nella sua malattia. E io non ebbi dubbi, scelsi gli effetti. Assolutamente. Quindi interruppi questa promettente carriera e tornando a Roma continuai, seguì mamma per 1 anno e mezzo, tutte le sue operazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Continuai la passione teatrale con Ileana Ghione, che era stata mia madre nel David Copperfield, lavorando al Teatro Ghione con lei per 4-5 anni. Ma tu sai, Pinuccio, quanto è faticoso fare 3 turni al giorno e la sera lo spettacolo, no, oppure 2 turni al giorno, le prove dello spettacolo nuovo il pomeriggio e la sera fare lo spettacolo vecchio, mio. Anche se sei giovane alla fine strippi. Di conseguenza abbandonai il teatro e mi dedicai anima e corpo al doppiaggio, che mi permetteva di essere stanziale, e di conseguenza già facevo gli attori importanti, quindi prese piede il doppiaggio, divenni direttore di doppiaggio, dialoghista, e la carriera del doppiaggio decollò. Che avevo stata, sempre tenuto al latere dell'essere certo, attore. Però è stato un bellissimo insegnamento che sì, stai dando. Io nel non ho non ci sono dubbi, non ho quello, rimpianti. Oggi farei la stessa scelta, cioè gli effetti sono la cosa più importante del quello, mondo. Sono gli amici, e invece vedi, la mamma, il papà, la famiglia. C'è chi ha preferito la carriera. Se tu conti che quando nacque Davide, io stavo a... Adesso Davide è un grande doppiatore, dovrò anche ospitarlo. Io stavo Io stavo a Leningrado sempre con l'Arlecchino quando nacque Davide, per cui qualcosa di sé, vabbè, quelle cose ci sta, insomma, che però si possono perdere. Rientrai nel giorno di riposo, rientrai a Roma per essere a casa quando la mia ex moglie tornava a casa con il bambino, e poi ripartii. Ma sì, poi feci la sorpresa. È la qualità, no, degli affetti. Adesso non voglio entrare nel link molto profondo di certe situazioni molto intime, però è quello, è vero, gli affetti sono la cosa, la più, cosa importante. Più importante. Assolutamente, non ti saresti mai perdonato No. Meglio vivere di rimorsi che di rimpianti. Ecco, e dopo questo io ti manderei a casa, ma invece c'è ancora qualche minuto. Anche se Laura Boccanera ci ha raggiunto, prima di Laura abbiamo il nostro seconda puntata del tutorial sulla voce con Eleonora Bruni, che ci sta insegnando a cantare, a respirare bene, come gli esercizi a casa che faceva già in fonda per le persone che poi andano in palestra. Stiamo facendo le stesse cose. I messaggi sono veramente tanti, c'è un affetto. Ciao Roberto, sei sempre grande, anch'io innamorato di Loretta. Un abbraccio da Mauro Pica. Perché non doppiate... Mauretto, vecchio amico mio, tesoro, come stai? Mauro, figlio di Claudio Villa e di Miranda Bonanzea. Ah, certo, Miranda Bonanzea, grande doppiatrice. Sì, è vero. Ah, Mauro, ciao, scusami, io. Purtroppo, meno male che ci ho vicino la memoria storica del mondo. Wikipedia gli fa una cosa quando esatto. Si in volgare. È una cosa brutta. Se volete l'applicazione Chevalier, scaricatela dal vostro telefonino, qualsiasi cosa, voi non sappiate, non vi ricordate. Voi cliccate l'app Chevaroscio, ex Roscio, e vi dirà tutto quello che volete sapere di tutto, ma non solo della sua vita, anche della vostra, dalla vita in su e dalla vita in giù. Perché non doppiate anche le fiction italiane? No, così capirei qualcosa, non sono straniera. No, ci hanno provato a farcele doppiare e qualcuno ha detto giustamente: perché allora non chiami me invece di chiamare qua? Siamo sempre lì. No, non si può fare, non gliela posso fare. È giusto, sono cani. Se abbaiassero da soli. Dobbiamo andare, ti ho detto mille volte che sì. Così non va. Io sono tuo amico, io ti voglio bene, io ti amo, perché tu sei la mia vita. Questo era Garco. No, è il trionfo della politica. Ah, scusa, pensavo. Cerco qualche denuncia io. Garco con la C, no, col K. Non so se è lo stesso personaggio. Non saprei. Perché non mettere Renzi. Che c'entra questa cosa? Non mettere Renzi? No, non c'entra niente con noi. C'è un po' della politica. No, dai. Questa è la politica. Ragazzi, un paese, vabbè, nelle mani... non c'è, non, scusa, ma il paese è Corsico di prima, perché il nome della persona... È il marito della Corsica, da no? Corsivo, invece è Corsico. È il marito della Corsica. Esattamente, sarà vicino. Non come, lo so. Come lo spigolo del tavolo è il marito della spigola. Pesce. Adesso ti mando via. Il parente del matto è il mattone. Cioè, esatto. No, basta, non mi fai, si attaccano queste cose brutte. Abbiamo ancora un minuto e 50 secondi insieme, Roberto. Dunque, io devo dire che sono stato molto contento di venire qui per due motivi. Primo, per l'amicizia che mi lega a Pino. Secondo, perché la trasmissione, ho potuto anche toccarla con mano, la trasmissione è una bella donna. Certo, è una bella donna. Tettuta e coluta. È piacevolissima. E questa conversazione così libera è interessante e soprattutto... penso propositiva e utile per il pubblico. Io ti auguro di condurla per tanto tempo, anche se purtroppo è di domenica e ti impone un sacrificio. Sì, ma soprattutto ai miei amici, chiedo veramente tanta voglia e tanta forza ai miei amici, che mi devono veramente voler molto bene. Chi non segue il calcio, ovviamente, ma è una scelta anche editoriale di Radio 24, quella di amare fortemente una trasmissione che una talk radio. Quanto tempo è che la conduci? Quasi due anni. Bene, quasi bene. Due anni. E che persone intense finiscono a un certo punto, per cui... Ma a volte ritornano. Io devo ritornare. Sì, me l'hai chiesto. Abbiamo parlato soltanto della prima parte della carriera. Mi mancano gli ultimi 30 anni, mi mancano. Con tutti gli aneddoti di conseguenza. Capirai. Ma poi la cosa bella sarebbe fare anche una trasmissione cumulativa, cioè nel senso i protagonisti di quel film storico insieme. Ecco. Oppure di quel periodo storico. Di quel periodo storico. Qualcuno è difficile. Quelli che sono rimasti. Quelli che ci stanno. No, speriamo di rimanere eterno. Mi dice di chiudere Alessandro, mette i tempi, che già abbiamo il traffico, poi l'appuntamento con Eleonora e poi c'è Laura Boccanera, che è un'altra, no? Laura, grande, grandissima. Serie A. Una Jodie Foster, l'unica sì. E incommensurabile. Ma poi anche lei, come Emanuela Rossi, una delle poche, no? Siamo cresciuti tutti insieme. Sì, ma voce volto. Giovane, ma... Nel senso che ci sta, è bella come la sua voce. Beh sì. È anche una bella persona. Noi siamo brutti, come noi siamo una bella tu, voce. Parla per te. No, la pure te. Adesso non devi il successo. Ma no, vorrei darti 10 minuti per spiegare sta cosa. Roberto, ti voglio bene, grazie. Grazie a voi, grazie. Roberto a tutti. Chevalier, a tra poco con Eleonora Bruni, Radio 24, Voice Anatomy. A tra poco. Ciao pubblico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy al mio fianco per la seconda puntata del tutorial sulla voce, sul canto, la nostra grande professionista Eleonora Bruni, che fa questo proprio di mestiere. Ho detto bene? Assolutamente. Beh, perfetto, sì. Questo. E non viene qui per farsi pubblicità, non ne ha bisogno, è piena di persone che sì, cercano. Lavoriamo. Ma sì, anche perché credo che questo serva nella vita quotidiana. Saper parlare, saper sì, respirare, sì. Saper poi cantare, per carità. Non è detto che tu debba fare il cantante come chi fa, ripeto sempre, ginnastica da casa. Non è detto che debba fare lo sportivo professionista. Assolutamente, fa parte di una di quelle attitudini comunque dell'essere umano che in parte migliorano la nostra vita comunicativa, migliorano il rapporto con noi stessi, con il corpo, e quindi è un percorso molto bello. E come l'altra volta abbiamo parlato del respiro, che è funzionale proprio alla vita quotidiana, quando dice fai un bel respiro e calmati, no? Assolutamente sì, respira, fermo, respira. Ma soprattutto respirare bene. L'altra volta abbiamo cominciato a raccontare del respiro che non deve essere alzando le spalle, perché altrimenti contrae tutti i muscoli del collo, per cui le corde vocali, e poi c'è poca voce, stai così, c'è sì, poco proprio, fiato, proprio sei poca aria, esatto, e si ossigena poco il sangue. Assolutamente. Anche quando cominciate a correre, cominciate già a respirare, ve lo dice uno che ha fatto l'ISEF, anche se dal corpo non si direbbe. Cominciate subito a respirare con una frequenza leggera, non aspettate di andare in affaticamento, altrimenti esatto, non recupera più. Approfitto di questo appunto meraviglioso per dire che in effetti il respiro, appunto, come dicevamo la volta precedente, è l'attività primaria e naturale. Cioè tutti noi in fondo sappiamo respirare, ci garantisce la vita. È importante che anche l'attività che noi facciamo per quello che è il controllo della voce non vada mai in conflitto con l'esigenza reale del corpo di approvvigionarsi di ossigeno e anche di avere appunto un rilascio, una capacità di benessere. Quindi è vero che noi cerchiamo da una parte una respirazione più atletica, impariamo a gestire, come dicevamo la volta precedente, l'altezza tonale, la durata, la pressione, cioè il volume, quanta voce vado a utilizzare. Ma è anche vero che questo deve essere fatto nel rispetto dell'esigenza del corpo, perché mentre noi facciamo l'atto espressivo o artistico, il corpo vive con quell'atto, continua. Ma anche a per fare... parlare serve la respirazione assolutamente, giusta. Assolutamente. Più sei tranquillo e più riesci ad uscire quella voce serena, aperta, che dà anche serenità a chi ti sta ascoltando. Piacevole. Ovviamente adesso non dovete pensare alla mia voce timbrata, bassa, da omone, che non sono, ma pensate che la voce è un'escursione, va da qua su, poi si abbassa, si ingola, si nasalizza, cioè poi è uno strumento, noi è uno strumento. Ci dovrebbero insegnare proprio a scuola. Sarebbe meraviglioso. Dai, c'è una chitarra, non puoi battere soltanto su... Un'educazione vocale sarebbe veramente un salto di qualità. È come quando c'è il teatro nelle scuole, lo dico sempre, cioè, il teatro aiuta, non farai mai l'attore, magari, ma ti aiuterà a stare insieme alla gente, a governare la tua timidezza, a governare le tensioni, il nervosismo, a fare gruppo. Fare gruppo è un passaggio di forte espressività, di contatto con se stesso, con le proprie emozioni. Insomma, che esercizi possiamo fare? L'altra volta abbiamo parlato di questo vocalizzo con la... L'altra volta abbiamo sentito un po' come potevamo gestire la durata del fiato e quindi per ascoltarlo, per sentirlo, avevamo messo una V, per sentire proprio quanto l'aria può uscire lentamente senza perdere intensità. Per cui un bel respiro, bello, basso, di pancia, così diciamo, il diaframma. Esattamente, il diaframma si abbassa e poi sentire proprio questa colonna d'aria che sostiene questa V inizialmente. Oggi cominciamo invece a vedere un po' come andiamo verso il suono propriamente detto. Siccome, come accennavamo, il suono una volta prodotto nella gola viene amplificato nella cavità di risonanza, che è poi lo spazio vuoto al di sopra delle corde vocali, insomma la bocca, la per bocca dirla la, in modo la esatto, faccia. La faccia, la bocca, lo spazio proprio in cui l'onda sonora passa, viene attraversata tutta la zona vuota dall'onda sonora e si arricchisce di parziali armoniche. Questo è ciò che determina il timbro. Quindi ora cerchiamo di andare a mettere insieme queste tre componenti e diremo una M. nella nostra M avremo le labbra chiuse, sì, ma dentro avremo i denti socchiusi, morbidi, mentre l'articolazione a sua volta sarà morbida, e avremo la lingua abbassata morbidamente, come se fosse sdraiata sul suo letto tranquillamente, e diremo la nostra M all'interno della bocca sentendola risuonare in tutte le direzioni, un po' come se avessimo un sole che emana raggi che vanno in tutte le direzioni, e quindi riprendendo l'aria come avevamo detto ci diremo questa M. Chi se mi fosse messo in ascolto solo ora, non è il segnale, il monoscopio della RAI quando finiscono le trasmissioni, ovviamente, e farla risuonare con la bocca poi chiusa, praticamente socchiusa ma rilassata. È rilassata. In realtà stiamo sentendo tutte le vibrazioni che si propagano all'interno della cavità senza orale, spingere col diaframma, senza mai spingere, ma sempre immaginando idealmente due mani che da sotto, avevamo parlato dei muscoli obliqui e trasversi, aiutano tutta la parte viscerale a mantenendo tornare al suo regolare posto. Il suono senza spingere, esattamente, non cercare per ora di fare non questo facciamo ancora variazioni di intensità, lo manteniamo quindi uguale, sostanzialmente costante, e quindi ma sentiamo che lo spazio dentro la bocca dà già la sensazione di un volume vero e proprio. Lo possiamo provare e poi possiamo cominciare anche a muoverlo un po' sulle altezze tonali, anche se in questo momento non lo facciamo con una tastiera di riferimento. Sì, sì, non ci porta delle note adesso. E questo è il diaframma che ti aiuta a spingere. Il diaframma sta risalendo, le viscere stanno tornando al loro posto. Nel frattempo io ho ancora le mie coste belle larghe che si chiuderanno piano piano mano a mano che l'aria esce. Cos'è che mi fa cambiare la nota? Perché questa è la gran domanda. Mi fa cambiare la nota un muscolino che è qui davanti, che si chiama cricotiroideo, hanno questi nomi meravigliosi. Vicino alla tiroide, insomma, sul goccio. Dalla cricoide alla tiroide, che in realtà permette alle mie corde vocali di allungarsi, e quindi esattamente come la corda di una chitarra, una volta che io le allungo, come un elastico. E come fai ad avere la sensibilità di quel muscolo? Allora, noi in realtà abbiamo dei meccanismi naturali perché questo avvenga. L'artista, il professionista vocale, può anche acquisire però una capacità poi di controllarla, certo, e di governarla. Certamente l'utilizzo, cioè collegare immediatamente il risultato sonoro che noi sentiamo della nostra voce con le percezioni interne, ci aiuta poi ad arrivare a questo. Però piano piano, intanto facciamo il salto mortale, poi strada facendo mentre giri avrai la percezione avremo di tutto il giro. Adesso giriamo. Esattamente, e quindi ci andiamo a dire la nostra M salendo e scendendo con un gran glissato, quindi e torno al punto di partenza. Se sono riuscita a fare l'andata e il ritorno, ho gestito anche l'aria inevitabilmente. E quindi qui abbiamo già avuto l'allungamento delle corde vocali, cioè il cambiamento di tonalità, lo stretch, esattamente. Abbiamo già avuto la risonanza e abbiamo gestito le tre cose insieme. Quindi ci stiamo già avviando verso una prima percezione. Ah, che bello. Però piano piano ci arriveremo. Adesso sembrerà complicato. Dice, è meglio quando canto spontaneamente. È vero, all'inizio puoi perdere quella spontaneità, come quando uno deve diventare attore, deve finire i verbi, se sei romano devi cambiare la semplice, perdi la tua spontaneità, ma poi la recuperi e diventerà una cosa naturale. Esatto. Guarda, io credo che un buon lavoro da fare sulla voce è proprio quello di imparare a gestirla senza mai perdere l'aspetto espressivo, perché altrimenti un tecnico totalmente freddo ci muove poco, insomma. Esatto, però divertiamoci insieme. Queste sono passeggiate che faremo insieme. Si chiama Voice Anatomy ed è giusto che abbia la sua spiegazione anche tecnica, anatomica, e per carità, per aiutare anche le persone a vivere meglio con la propria voce e a saperla gestire, ma adesso questo è soltanto l'inizio. Abbiamo fatto due lezioncine gratuite, potete risentirle quante volte volete nei podcast di Radio 24 di Voice Anatomy, ma le ripercorreremo ogni volta con Eleonora, ricordandoci da dove siamo partiti, dalla respirazione, e insieme cammineremo. Alla cammineremo, fine giocheremo un esatto, gioco. Giochiamo. Questa, la vita va giocata. Assolutamente, è un grande ironia. E allora, a tra poco con Voice Anatomy. Torniamo presto, eh? Grazie. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison. Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da... Tecnologia e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati signori, bentornati. Voice Anatomy, oggi giornata dedicata alla voce in toto, anche con due, per la prima volta, due grandissimi attori doppiatori, e ovviamente con sesso completamente opposto, da Roberto Chevalier alla bravissima Laura Boccanera. Benvenuta Laura. Ciao, che buonasera bello. A tutti, ma pure grazie. Ma pure te la voce non è cambiata, ma è possibile? Oddio, no, non dico, non si dice so. L'età di una donna. No, non la dico, dirò solo mai. Sei nata il 13 settembre, no, sei della Vergine e sei di Roma. Fine. Esatto, no, basta. L'età. Vabbè, Laura, cliccano su Antonio Genna. E sanno tutto. Wikipedia, c'è scritto quando sei nata. Anche, lo so, c'è tutto, lo so. Massimo, I know. Ma sì, io posso garantire sul corpo. La voce grazie, garantisce già da sola. Io garantisco sul corpo. Nel senso buono del termine. Nel senso, non che io lo conosca, ma questo è qui davanti a me. Però non lo diciamo lo no, stesso. No, non lo diciamo. Facciamoli scomodare, andare su. Esatto, che cliccano là sopra. Esatto. Complimenti per la Bruni, per qualcuno è diventata come il maestro Jedi di Guerre Stellari, wow, eccetera, eccetera. L'età della domenica, anche a chi fa parapendio va funghi. Ma come, chi fa parapendio non può ascoltarci, come fa? No? È pericolosissimo. Con le cuffiette? Sì, perché no? Ho capito. Sì, è vero, può distrarre. Distrae un attimo. Beh, se lo fanno parapendio, io neanche mi convincerei mai a fare parapendio. Ma neanche a me, guarda. Boccanera, qual è il tuo sport? Paura. Fai sport tu? Io? Vado in palestra, sì, sì. Il tapirulan. Ah, fai il tapirulan. Sì, è uno sport. Quando c'hai tre turni, voglio vedere. Non dovrebbero mettere sotto il leggio no. Un tapirulan che non fa magari. Rumore. Magari. Sarebbe spettacolare. Sarebbe fantastico. Sì, perché tante tutte le scene al cinema solo uno magari fa finta un po' di fiatone. Sì, ma tanto c'è sempre movimento sì, al sì, cinema. Sì, le sì. Scene no, le scene calme, uno rimane. Ne fermo lì davanti, ma scene quando corri, quando cammini, e uno deve dare quel movimento, lo facciamo sempre in come maniera no? Tale me che l'ho sembra fatto anche sdraiare per terra, se per questo anche addirittura in una scena di letto sì sì io ho fatto anche l'amore in diretta proprio no, perché questo, lei faceva l'amore. Non si non fa mi è stato ancora chiesto non è Strasberg no. No. Colonna separata. Senti Boccanera, sorella dell'altro meraviglioso amico e straordinario Fabietto, professionista Fabio. Ciao, Fabio Boccanera, veramente straordinario, ma sei anche cugina, questo per chi diceva all'inizio la famiglia perché c'è una lobby, perché no, no lo sanno non che è non è vero, lobby. È che uno se faccia il padre notaio, vabbè, intraprenderà quella carriera più o meno, se c'è il padre ingegnere o medico, magari tenterà di prendere quella carriera, così il doppiaggio che è una tecnica sì. Profonda, per cui anche Riccardo Emanuele e Massimo Rossi sì. Però abbiamo... tu non hai fatto gli Aristogatti o la carica di 101 con qualcuno di loro, Bambi? No, non c'eri. Perché loro tutti quanti, prima no. Scevaliera, Lachi. Beh, gli Aristogatti e Emanuele Riccardo. Esatto, era un problema. Riccardo non sapeva neanche leggere. No, ma tuttora, tuttora. No, no, no, è così, è così, Riccardo. Riccardo non sa leggere. Gli vengono suggerite le battute prima di farle esatto. Allo zio. Tanto qualcuno glielo dirà, qualcuno glielo dirà. Quando hai cominciato invece? Dove hai cominciato? Allora, io ho cominciato... Mamma e papà non facevano i doppiatori, non facevano gli attori. No, no. Mia mamma no, lo so. No. Mio padre era un orafo e la mia mamma... E vi ha forgiati. Sì. E io ho cominciato in realtà accompagnando proprio Riccardo, a cui devo tutto quello che ho, e alla vecchia Fonoroma, a via Maria Cristina, sì, che era meravigliosa, Piazza delle Flaminie a Roma, ce l'ho sì. In mezzo al cuore, e accompagnai mia zia con Riccardo, che doveva fare, adesso non mi ricordo, ma era proprio un film della Disney, del quale io non mi ricordo mai il nome, invece dovrei, perché beh, è stato dovresti. L'inizio della mia carriera. Allora chiedo ai nostri ascoltatori. E ho iniziato cantando. L'inizio? Ah, cantavi. E mi ricordo. Tu non sai qual è la canzone, ti mi diciamo. Mi ricordo il versetto che cantavo. Cantavo: come stai tu? Bene tu? Come ti va? Bene a te, come va? Erano due orsetti, ma non mi ricordo il titolo. Ma un film di da film. Disney o una serie di cartoni? No, no, era un film della Disney. Io devo la mia carriera al vecchio maestro che era Pellucci, che c'era una nostra collega bambina, che non dirò mai il nome neanche sotto tortura, mm-hmm. che non sapeva, era stonata, povera, era piccola pure lei. Io ero nascosta dietro a mia zia perché ero molto timida, e lui mi vide e disse: vieni, vieni tu. Prova e io tu. Attaccata al vestito di mia zia che non voleva andare, invece sono andata e ero intonata, e da lì allora, ho vediamo cominciato se la Laura mia Boccanera carriera. Ha cominciato la sua carriera come quindi, doppiatrice diciamo, in un film meno. Della Disney, ma non si ricorda, non me lo qui ricordo. Potete capire erano l'età due orsetti. Potete capire l'età esatto. Della signora Boccanera esatto capito intanto qualcuno ancora ce l'ha con Dustin Hoffman che non ce lo vedono nei medici a fare una figura che fa sì. Parte della storia italiana senza problemi con la storia contemporanea. Vabbè, insomma, ma certe volte certi nomi li chiamano per dare forza. Ma certo. No, è ovvio, Dustin Hoffman, perché poi è stata una settimana. Io a Firenze non... gira sta cosa dei sì, medici. Sì. Che io lo ripeto, visto. Pensavo che fosse una serie ospedaliera, invece ho capito dopo che era visto. Lorenzo De Medici, la famiglia De Medici. Non l'ho proprio visto. No, no, ce l'avevano col doppiaggio prima. Ah, non con li... il doppiaggio, ah, l'ho perché, letto. Perché non li, dicevano... non li doppiate voi? Ho fatto no, gli italiani non li doppiamo. No, no, no, assolutamente gli italiani si devono doppiare da soli, se decidono di fare gli attori, fare lo devono fare a tutto tondo. Se senti, no... tu hai prestato la voce attrice, io le leggo perché sono così tante. Jodie Foster, vabbè, sì, lei è il tuo corpo per antonomasia. Sì, sì, l'ho anche conosciuta. Julia Roberts, anche ti sei alternata con Cristina Boraschi. Winona Ryder, Sandra Bullock, Andy McDowell, Juliette Lewis, Lea Thompson. Ah, qual è la più talentuosa secondo te e con le quali hai avuto più difficoltà? Beh, te lo dico io. Ma tu mi stai chiedendo, io se no, allora, se parliamo di talento, io sono innamorata, quindi quando uno ama, come si dice? Jodie. Beh. Ragazzi, secondo, al di là del mio amore che è infinito, secondo me è veramente la... straordinaria, anche perché è un po' che è in silenzio, ha fatto credo poco, che lei si sia un po' scocciata sì, anche lei ha cominciato da piccola, ha vinto Oscar, che deve fare? Siete coetanei? Sì, abbiamo la stessa età io. Eccolo lei. Là, allora cercate su Wikipedia. Dai, tanto lo sanno tutti. È facile, Foster. È facile. Jodie Foster. Comunque lei in assoluto, secondo me, non so, però ripeto, magari posso sembrare di parte perché sono innamorata di lei. Ma no, vai. Secondo me è la straordinaria, sa fare tutto. L'ho anche conosciuta, quindi figurati. Ecco, quella è la domanda che volevo mamma farti mia. Perché so che lei ha avuto dei contatti. È stata l'esperienza più bella della mia vita. Quanto abbiamo dopo questo blocco, Alessandro? Dopo i miei figli, devo chiarire due questa cosa. Due figli straordinari. Due figli. Fra quanto... 2 minuti? Allora no, sentiamo dopo l'intervento del Silenzio degli Innocenti e parliamo un po' di più di questa avventura di Jodie Foster che... E dovete sapere che i grandi attori olimpiani soprattutto sono molto attenti al doppiaggio, soprattutto quello italiano, che è lo start-up un po' del doppiaggio poi in Europa. Assolutamente. Ci tengono a seguirlo e che sia anche da capostipite per gli altri doppiaggi in tutta Europa. Assolutamente, lei per è cui, molto attenta. Attenta, so che ti ha mandato anche una mail di ringraziamento. Più di una, sì, sì. Ah, proprio siete in contatto? Beh, c'è stato anche un episodio che volevano cambiare la voce, non so, no. Vabbè, adesso non mi va di raccontarlo. Vabbè, no, in cui lei senza fare altri nomi. No, in cui lei ha mandato una mail dicendo non se ne parla neanche. Ma che bella però, cosa. Questa cosa è brutta, sono molto presuntuosa a dirla, però giuro che no, è accaduto. No, no, non, ma non vorrei sembrare. No, è che non, loro non conoscendo molte persone, amando questo ambiente, questo mestiere, non sanno certe evoluzioni che ha, sì, come, all'interno. Come si evolvono, certo. E allora non è colpa di qualcuno che ti fa. Non è come in certi altri ambienti dove c'è qualcuno che ti fa le scarpe. No, esatto. Certe volte la casa distributrice, esatto, la maggiore, casuale, è dice: casuale, vabbè, in questo, esatto, film lei è diversa dal solito. Esatto, non esatto, calcolando che magari anche un attore può interpretare diversamente dal solito con la sua voce. Certo, e allora succede questo. Ma non è come magari può pensare in altri ambienti, paragonarlo ad altri ambienti dove c'è sempre qualcuno che dice: ah, via, mi ci metto io. No, no, no, no, è un ambiente sano, fra colleghi, no, c'è sempre, ci si avverte, ci si mette in contatto. C'è se rispetto, c'è un provino, si chiede, sì, la stessa quota per cercare di vincere soltanto sulla propria vocalità, perché, sì, certe volte non dipende proprio da noi. No, non dipende, assolutamente, mai dipende da noi. No, no, mai. Noi siamo sempre in mezzo e poi ce la gestiamo. Quando c'è stato Guerre Stellari era proibito pure da parte, dobbiamo firmare delle carte dove non riveliamo neanche che film stiamo toppando, o addirittura abbiamo fatto un provino, non si può dire. Non si per può dire, non pensate si un può. Po'. Vediamo il film in bianco e nero con delle scritte sovraimpressione, le cose che non si vede neanche la bocca, tutto buio. È un miracolo. Dici, ma che cosa sto doppiando? Non lo so. Vado devi così, bravo, di più. A fortuna. E allora, vado in cuffia, sì. Perché non vedendo. Comincia sempre per la C e con la U, ma non è quello. Esatto, non esatto, è solamente CU, esatto, ma è anche grandissima bravura. Assolutamente. Restate con noi perché Laura Boccanera rimarrà con noi fino alla fine della trasmissione, che è fra 4 ore e 40. No, okay, scherzo, ma io sto benissimo, io sto benissimo. A tra poco con a Laura, dopo. Laura Boccanera, voi sanatemi, a tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori, come promesso 16, 17, niente, io, 18. Ogni volta oggi comincio, di voglio dire i secondi per far vedere quanto è diretta questa diretta. Non ci riesco perché chiude sempre il minuto. Laura Boccanera al mio fianco. Eccoci. E con lei Sandra Bullock, Jodie Foster, tutte vicino a me. Parlavamo prima della grandissima Jodie Foster, la quale tu sei veramente forse l'attrice a cui sei più affezionata, anche perché c'è un contatto anche, sì, di ringraziamenti, di osmosi artistica importante. Sì, sì. Allora io mi sento una Laura Boccanera dannata, dannata nel senso, anche dannata senza apposto, perché stiamo parlando del Silenzio degli Innocenti, sì, e tu l'hai visto prima in originale, mi raccontavi. Io l'ho visto prima in originale, tu e Dario Penne, io e Dario Penne, ci siamo guardati e abbiamo detto oddio, e adesso devo dire straordinari sia lui che lei, e noi abbiamo insomma cercato di rifare al 70% quello che facevano loro. L'avete portato bene, l'emozione è arrivata a tutti. Bellissimo. Il film ha avuto un grandissimo successo. Bellissimo, e non l'abbiamo visto, sì, in italiano. Bellissimo, per cui, sì, adesso grazie, divertitevi in doppio audio. Bello, però bello, sentite, sì, con la bravura straordinaria. Loro ci hanno avuto mesi, forse un anno, due anni, è per vero, girarlo, avere tempo. Voi ci, però è anche vero che doppiare giorni, attori o attrici straordinarie è, facile, certo, è un'esperienza bella, è più facile. Ti portano per mano. Ti prendono per mano, esatto, bravo. E allora, esatto, sentiamo qual è la scena scelta dal nostro amico, autore e attore Mauro Meconi, che oggi ha fatto sega insieme a Alessia Navarro perché sono in teatro. Va bene, ascoltiamoci. Il Silenzio degli Innocenti, Jodie Foster, ma con la voce di Laura Boccanera. Se il suo profilo ti aiuta a catturare Buffalo Bill in tempo per salvare Catherine Martin, il senatore le promette il trasferimento al VA Hospital di Oneida Park, New York, con una vista sui boschi che ci sono nelle vicinanze. Vale ancora la massima sicurezza, naturalmente. Potrebbe avere accesso ai libri in maniera funzionale. La cosa più importante: una settimana all'anno potrebbe lasciare l'ospedale e andare qui. Plum Island. Ogni giorno di quella settimana potrebbe passeggiare sulla spiaggia, nuotare nell'oceano per un'ora. Tutto questo è sempre sotto sorveglianza, naturalmente. E questa era Laura Boccanera. Vabbè, quanti anni fa? Io mi sono commossa, scusate, mi ricordo esattamente quando, come, la scena. L'emozione. Mi sono commossa. Quando l'ho vista è scioccante quel film, bellissimo. Bellissimo, sì. E dunque, un momento che mi riprendo, che sono risentirmi, mi ha veramente passati? Commosso. No. Era il 91, 26. Quindi sono 26 anni fa. La voce non è cambiata tanto. Calcola che qui è andata pure un po' più veloce, che quando registi, sì, purtroppo sono i supporti che vanno a 25 fotogrammi al secondo, non a 24, sì, per cui la voce viene, sì, leggermente modificata su certi supporti. Che meraviglia. Però non è cambiata neanche la tua voce molto. Cioè, pochino. Vabbè, dai, poco, ci sta, poco. Poco poco, sì, ci, sì, sta, ci sta, certo, però poi la segui. Stai andando avanti con l'età insieme a lei, sotto il braccio. Sì. Non, sì, è cambiato, sì, assolutamente, sì, niente, però il film è veramente scioccante. Bello, bellissimo. Ti aspettavi di dare così tanto al mondo del doppiaggio quando hai cominciato? No, no, assolutamente. Ma adesso dovrei tornare indietro, ma no, non me l'aspettavo. Signori, lei è Candy Candy, sì. Sì, sono, stata sono in tutti, io, ma scusate, sono l'ho io, interrotto. Sono io. Candy Candy. Uno è schiavo di... Oddio, guardate che ha trovato. Anche questa. La bella, la buoni, bella, senti, perché... senti che ha fatto. Ah, mio Dio. E questa è. E questo. Chi sta? Mi sento molto Carlo Conti nei migliori anni, ma questa è la croce rossina che è in me, che è poi questo, lo sono anche nella vita. Sì, è dovuta a Candy Candy. Candy Candy, da un nome e un destino. Esatto. È come per Francesca Guadagno, esatto, Heidi, siete destinate. No, a parte gli scherzi, è stato... Vabbè. Io l'ho amato molto Candy Candy. Ma quanti anni avevi? Quanti anni fa è Candy Candy? Avevo 16 anni. Per cui non faccio i conti. 16 anni zitto, e l'ho fatta per insomma 3-4 anni, perché poi ci sono state serie, film, dischi, film al cinema. Insomma, tu non fu... cantavi, no, la serie? No, non ho cantato. Cantavi? Sì. E quella fu la prima serie che insomma sì, ebbe un successo. Ti dico, io ancora rimane. Adesso ho riconoscimenti, cose. Certo, quella generazione e anche le nuove generazioni che sono attenti alle serie, ti dico, ai cartoni. Solo che ogni tanto adesso... erano 40 anni che è nata Candy Candy, mi arrivano gli auguri. Certo, cioè, perché diventi tu. Di 40 anni poi, fa, esatto, insomma. Poi un cartone sei tu, cioè, beh, non certo, è l'attrice perché... Jodie Foster resterà per sempre, certo, Jodie Foster doppiata o comunque accompagnata, cartone in italiano tu, da... certo. Ma il cartone sei tu, assolutamente Candy, sì. Candy sei tu, sì, sì, quale sì, altro sì. Cartone si è affezionato a parte il primo della Disney che ancora non abbiamo capito. Madonna, ma magari lo trovate, vi sarei molto grata, non riesco a trovare quel ci tipo. Date una mano, signori. Laura Boccanera, ma è difficile. Walt Disney è difficile, ci ho già provato a cercarlo. Dunque, l'altro a cui sono molto legata, Magica, La Bella e la Bestia. Ah, La Bella e la Bestia, Ribella. È vero, è ribella. Anche quello, devo dire, bello. Però quello sicuramente, no? Ti lo guardi e dici, ah, che figo, è bello. Candy Candy ti supera, no? Candy Candy e uno supera dice, ma tutti. Alla Candy Candy era più vince facile. Sempre, esatto. Come la Juve. Esatto. Nella mia carriera Candy Candy sta sempre 5 anche sopra. Anche se era fuori sink l'arbitro sai, era ma io fuori. Ho fatto anche no. Candy. Quindi, e va bene, ma io ne sono felice, per carità. Maria Antonietta e Lady Oscar. Maria Antonietta e Lady Oscar. A me la dicela tutta questa storia. Lulu dei Fiori, Nala nel Re Leone. E che vuoi? La principessa Odette, tutto, quasi noiosa, esatto, diciamolo, quasi noiosa. Pensi ai tuoi nipoti. Mi annoio quasi da sola. I figli dei tuoi figli dei tuoi figli, che sentiranno sì, sì. Nonna, la bisnonna. Esatto. Ma questa era nonna, che vergogna. Pensa che i miei figli, quando dico, vabbè, adesso quando sarà più tardi, mamma, non c'è, e loro, ah, non lo volevo neanche sentir dire, però, dico, però rimane, mamma, cosa c'è. Rimane, mamma c'è, rimarrà. Però io, queste cose a me non so, ti mettono allegria o tristezza. No, tristezza, tristezza perché vorrei dire. Essere presente quando il figlio di mio figlio sentirà. Vabbè, ci saremo, siamo giovani. Il figlio di mio figlio, fino. No, sta buona. No. Scusa, c'è Wikipedia che come parla. No, ma il figlio di tuo figlio, del figlio di tuo figlio, non no, non il figlio so. Di mio figlio, cioè adesso diventa un po' troppo no, lungo. Se tua figlia ha 20 anni, sì, per cui c'è tempo, puoi diventare nonna. A voglia, ma spero più tardi possibile. Questo mio figlio, sono stata molto chiara. Fai venire varicocele a tuo figlio, così almeno evita di far figli. Mio figlio lo minaccio sempre, non ci provare. Non si fanno così i bambini, il silenzio degli innocenti. Jodie, Laura, sento ancora la vostra emozione, Walter, la vostra emozione. Pensa che l'ho sentita io, Walter, risentendomi, sì. Che bello, Magica, bello. Un'altra cosa, Magica, non so se è riferita a Candy Candy. Qui c'è un consiglio, invece avevo consigliato Voice Anatomy a voi per la Bossi Fedrigotti, ma la nuova voce è dello stesso spot che ho sentito di... tra niente col messaggio stesso. Vabbè, troppo morbida e sensuale, era quasi meglio la Bossi nelle sue ultime versioni. È uno spot che sì. Va qui su Radio 24. Vabbè, casomai ci chiedono, qualcuna troviamo, insomma, a Boccanera è disponibile per degli spot. È uno spot poi sociale, immagino, certo. Che sia, no? Per cui ci siamo. Assolutamente. E va bene, qui si sono fermati un attimo, ma non si sono fermate le domande. Certo, sono cambiate tante cose, però Giulia e Luis a me fatto impazzire. Tu sai, un altro film pauroso, Oliver Stone. Film Natural Born Killers. Con quell'animale di pedicini. Che meraviglia, anche lì ho dei ricordi bellissimi. Beh, quel film io quello tornai paura. Prima delle vacanze, perché andava fatto come al solito, quindi tornai prima delle mie vacanze. Però pure quello fu assassinato. Bella esperienza. Oliver Stone, sì. Io e lui, io e Roberto Leggio, due pazzi proprio. Beh, dovevi essere così, perché Woody Allison è. Mi ricordo che Roberto diceva: facciamoci una birra, facciamo qualcosa. Ma facciamoci qualcosa di peggio. Facciamoci perché qualcosa basta. Perché questi bisogna rifare loro così. L'hai fatto nel Promotore della Paura? Chi l'ha fatto invece? Non mi ricordo. Non so. Perché ricordo. Pure Giulia è un'attrice che vi siete. Io l'ho fatta, passate. Sì, ce la siamo. Io l'ho fatta in diverse cose. L'ho fatta in California, che c'era sempre lei. L'ho fatta però... Quando è matta, Fede? No. Sì, chissà perché. Non lo so. Matte. Quanto abbiamo per questo blocco, dottor Alessandro? 2 minuti e mezzo. Faccio in tempo a sentirmi un Assassininati con Julia bello. Lewis. Un pezzetto? Allora, ascoltiamoci sì, sempre fantastico. Laura Boccanera su Love Julia you. Lewis. Dammi la mano. Non è quello che avevo in mente. Vaffanculo, aio! Forza, vogliamolo. È molto romantico, baby. Vivremo uniti in tutti gli oceani adesso. Dio, davanti a te, a questo fiume, a queste montagne, a tutto quello che non conosciamo. Mickey, vuoi tu prendere Mallory come tua fedele sposa per amarla e rispettarla fino alla morte? Lo voglio. Per tutta l'eternità, finché non saremo cenere e cenere della cenere, finché la morte non ci separerà. Sì! Baby, per il potere disceso su di me come Dio del mio mondo, ci dichiaro marito e moglie. Mi fa paura. Incredibile! Ti ricordavi che l'hai fatta in questa maniera un po' ubriaca, fatta? Sì, no, mi ricordavo la follia. E comunque il periodo credo che più o meno sia quello, sai, sì. Sempre il 90 era. Però vedi che bello, cioè, hai pazzisco, ereditato quella follia nell'intenzione, grazie, nelle follia. Non bello. Era facile. Non no. Era facile. No, lì ero proprio, eravamo proprio, sì. Non condivido questo messaggio. Bella la Foster, bella la Lewis, bella la Boccanera. Simpatico il segno. Perché? Grazie! Ma non si poteva continuare così. Era grazie, bellissimo. Grazie! Il messaggio era perfetto. Se continuavate su questa strada. Cioè, era anche la presa in giro, che vuol dire? Ti dice, bello anche Pino in segno. Suona falsa. Così, rifacciamola. Rifacciamola. Va bene, dobbiamo andare in pubblicità, vero? Gonfio di botte alla Boccanera e torniamo subito in diretta. Basta che lei non diventa realmente quello che era Giulia Lewis. Attenzione, perché potrei essere pericolosa. Ma io mi dimangerò con un buon Chianti. Esatto. A tra poco, poi Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, 16, 30, ma perché? 59 e 33, va bene così. Laura Boccanera, eccoci. Al secolo Foster, eccoci Bull, qua. Che quant'altro. Rachele, che è la nostra oggi capo redattrice, che è qui, ha trovato finalmente il titolo del film che ha startuppato. Grande Rachele, non dici, c'era mai che riuscito cos'era? Nessuno. Vieni in voce. The Three Bopping Beer Song. Ecco, grazie Rachele. Hai capito, Rachele? Finalmente, dopo tu, Rachele, anni. So che sei una... Hai visto, prima parlava la nostra caporedattrice qui, che studia per, invece, tu sei... Ti sta laureando in? In economia. In economia. E sono laureata in giurisprudenza. Hai capito. Palle. Hai capito, ragazzi? No, scusa. Puoi uscire da questa stanza. Cioè, scusa non volevo, se è poco. Ci ha mortificato in un secondo. Assolutamente. Io sono diplomata all'ISEF. E allora? Però sei una grande amante delle serie. Delle serie TV. E prima ci stavi dicendo... C'è qualche problema ogni tanto col doppiaggio, nonostante il doppiaggio italiano sia il migliore al mondo, sicuramente c'è. Sì, ho un gruppo di amici, noi parliamo spessissimo di serie TV e notiamo una notevole differenza tra il doppiaggio dei film e quello delle serie TV. Eh sì, purtroppo questa può essere una domanda fatta anche, però lo sa anche Laura, i motivi, insomma, certe volte la fretta. ti consegnano una puntata lunedì e venerdì, deve andare in onda, per cui le traduzioni, gli adattamenti certe volte si possono perdere, poi soprattutto quelli bravi bravi bravi magari sono occupati su House of Cards, dico, per però dire, lei è bravissima in House of Cards. Sì sì, ho fatto anch'io il presidente russo, vi ringrazio. Oh, ma no, io scusami no, tu capito, però scusa, sei un personaggio marginale, è vero, io è vero, sono è vero, la first lady, è vero, scusami, c'ha ragione pure lei, non ho capito, sei sempre la moglie dei Pedicini, ma è possibile, sempre la moglie di Pedicini o la fidanzata di Pedicini, è un mio destino, mamma mia, è vero, io sono soltanto di passaggio, però non sono venuto a letto con te, t'ho baciato, t'ho baciato, un gran bello personaggio, abbiamo discusso parecchio. Certo, mica ora vedremo nella prossima serie. Non so, non mi hanno ancora nella chiamato. Prossima, neanche a me dovrà arrivare. Ci starai, diventerai presidentessa tu come la Clinton. Credo, dai. Credo che diventi, non lo so, non spoileria. Non lo so. Qual è la serie che preferisci tu, Rachele? Fringe. Di J.J. Abrams. Sì, tutte e cinque le stagioni. Sai che io faccio finta di essere occupato quando mi chiamano per le serie che vedo? Lo dico a voce alta. Fringe hanno chiamato, viene a fare il protagonista di puntata. Perché cosa? Fringe? No. Quando è? No, ma io dico quando è? Ah, cavolo, no. Ma guarda, possiamo spostarla? Sì, ma sto in tournée. Io ho sta fortuna del teatro. Esatto. Sto a fare televisione. Ma non t'ho posso, visto in televisione. Ma sto a fare una cosa. Non posso venire. No, Fringe è meraviglioso. Guardatela, è come Dexter. Ma Breaking Bad credo che sia la più bella. Qui no, parliamo proprio d'affe. Breaking Bad è la, è la prima Bad. Serie TV che ha portato le serie TV in Italia ad essere conosciute da tutto il popolo italiano. Prima eravamo una setta di nerd che guardavano le serie TV. Sì. Con Breaking Bad adesso tutti, ragazzi, guardano le serie lo TV. Lo so, Breaking Bad è Shakespeare. Cioè la scritta Shakespeare. Sì. È fantastica. No, dai, non sei d'accordo. Non sono d'accordo. Sì, è bellissima, Madonna, però ce ne sono di migliori. E dipende quale preferisci, preferisci il fantasy o preferisci le cose. Devi essere oggettiva, è come se vai a vedere il giardino dei ciliegi Chekhov e poi vai a vedere la premiata ditta. Cioè, devi dividere le cose. Certo. Se non è più bello il giardino dei ciliegi o più certo, bella la premiata ditta. Devi la tua preferenza, perché Homeland pure è bellissimo. Homeland è un capolavoro. Capito? Sì. Anche Doctor Who che... No, ci capisco. Ha fatto tutte le cose anche lì. Io la cabina telefonica ho fatto. faccio il telefono. Sì, le prime stagioni ero io la cabina telefonica. No, veramente, sono uno dei migliori. Qualcuno... che dice no oggi no, ma le altre volte vi ascolto dopo essermi lanciato col parapendio, eppure se vado a funghi, lo vedi? C'è idee complicate, questo va a funghi mentre fa parapendio o si butta di sotto per pian fungo, va bene, probabile. Una volta volevo fare il pubblicitario, al colloquio mi chiesero una simulazione, io usai come sottofondo Candy in uno spot per lavatrici Candy. mi cacciarono. Oddio, mi spiace. È vera la Candy. Vabbè, noi pure, cari Fre, cioè non è, le italianizziamo tutto, non vogliamo fare pubblicità ai prodotti, ma italianizziamo tutti i prodotti. Un'altra cosa, qui invece è una cosa che facciamo di servizio, potete scrivermi per favore il titolo del meraviglioso brano mandato in onda stamane, non ho sentito dall'81 al termine del treno va, grazie mille Alessandro. Qual è? Tu lo sai, Alessandro, che sei il tecnico del suono? No, ho capito, sfuggi. Va bene, sfuggi. E allora Rachele, vuoi farci una domanda? Vuoi fare una domanda a Laura, visto che hai la possibilità tu a capo di questo gruppo dei nerd? No, io in quanto Potterheads, cioè amante di Harry Potter, Bellatrix, Potterheads, è vero, non l'abbiamo nominato. Bisogna Bellatrix. Nominare Bellatrix. Io è vero, Bellatrix è vero. Sì. Ha un suo perché nella mia carriera. Ho capito, ma c'hanno tutto il suo perché, ha fatto tutto. Ho capito, che devo fare? Ho capito. Noiosa, ho detto noiosa. È noiosa, veramente, ma è come se tu... Adesso manca in macchina il GPS che ha voce dalla bocca nera che ti accompagna. Manca. Dove stai girando? Dove stai andando? Oppure hai sbagliato strada. Con la voce Julia Lewis. Dove stai andando? Hai sbagliato strada. Fai il palloncino, amico mio. E nessun'altra cosa, hai fatto una gratificazione di Harry Potter, vuoi fare una domanda specifica a Laura? Dimmi. Come esponente a questo punto dei nostri radioascoltatori che sono tantissimi, io vi ringrazio davvero. Ciao Candy, sempre un mito per me, tutti i personaggi dopo Candy sono stati Candy che cresceva e sceglieva strade diverse, la casa nella prateria anche, hai fatto? Anche facevo la, certo, Laura della, nella casa della prateria, sì, ho capito, senza... lo so, noiosa Pino, te l'ho detto, noiosa. Ma io lo chiamavo una anche brava Grey's Anatomy, no? Anche Grey's Edison Montgomery. Ho capito. Scusa, io. La moglie di così Derek. Così importante che poi le hanno dato uno spin-off. Beh, io la hanno dato so spin-off. Che... Sì, Private sì, Practice. Lei ha fatto un Private Practice, ma perché mi ricordo che, insomma, così dicevano, non lo so quanto sia vero, perché faceva ombra alla protagonista. Sì. E facendo ombra, perché la Kate Walsh, devo dire, bellissima, brava, poi, e quindi hanno fatto questo spin-off che però poi insomma hanno chiuso, sì. Non so per quale motivazione. Dopo 3-4 stagioni. Sì. Dopo 4 stagioni sì. L'hanno chiuso, sì. Senti, ragazzi, ma vieni qui al posto mio, dirige, non ho capito questa grande, cosa. Ragazzi, già non so bello, ma sono simpatico. Di serie TV, che poi non era male quella serie, era bella. No, era fatta bene. Capirà, due donne, dai, dai il microfono. Basta. No, ma no, è bello. Vai, basta. Ma no, già non ho fatto niente. Scusa, Pino, vai. Pure una casa nella prateria facevo il cavallo io. Dai. Ma scusa, sono noiosa. Ma ho capito, ma stavo nominando delle serie così a culo e tu hai fatto quelle tutte. Vabbè, ragazzi, l'ha fatto tutto e io che ho fatto? Su questo silenzio. E allora, per coprire questo imbarazzo da parte mia, io mi sentirei una Sandra Bullock, perché anche lì abbiamo fatto, c'è un film bellissimo che è Crash. Come no? Scusa se facevo mentirlo, io non faccio mai io in trasmissione, perché sono il conduttore, sì, sì. Io non devo essere io, ma devo essere tu, voi, loro. Crash. Ma visto che c'era che lei mi guarda con snobberia, io facevo mentirlo, no. Va bene, male, ma l'ho fatto. Crash, sentiamoci un momento di Sandra Bullock, è già vero. Due interpretazioni diverse, la stessa voce, ora la terza interpretazione, Sandra Bullock. Sì, certo. Devo parlarti un secondo. Va bene, la ringrazio, ci sarà molto. Solo un momento, d'accordo? Sì, tesoro. Voglio cambiare ancora le serrature. Vuoi? Senti, perché non vai a riposarti un po'? Hai controllato James? Ma certo che ho controllato James. Ogni 5 minuti da quando siamo rientrati. Non trattarmi da povera idiota. Cioè? Voglio cambiare ancora le serrature domattina. Va bene, ma vai a riposarti adesso. Non ti ho forse appena detto di non trattarmi da ragazzina? Scusa. Io voglio cambiare ancora le serrature domattina. E tu dovresti anche dire alla ditta di non mandarci un malvivente questa volta. Un malvivente? Sì. Ma chi, il ragazzo di là? Sì, quello rapata zero, con le mutande fuori dai calzoni, marchiato dal tatuaggio. Non è un marchio il tatuaggio. Ah no? E dici che non andrà a vendere la nostra chiave a qualche amico rapinatore quando uscirà Hai di qui? Hai avuto una brutta giornata, sarebbe meglio se adesso te ne andassi di sopra. Ad aspettare che entrino per rapinarci? L'hai vista o no la canna della pistola sulla mia faccia? Non alzare la voce. Ed è stata colpa mia, perché io l'avevo previsto. Però se una donna bianca vede avvicinarsi due neri e cambia strada per evitarli, è una razzista, va bene? Benché avessi paura, io non ho detto niente. Niente, di lì a 10 secondi mi hanno puntato una pistola. E adesso ti dico che il tuo amico lì venderà la nostra chiave a qualche compare. Voglio vedere se questa volta ti comporti come se non te ne fregasse un cazzo. Ecco. Bene. Vedi, che tre bello. Registri, vedi, però tre registri diversi, no, Rachele? Che bello. Natural Born Killer, una voce bello. Fatta, ubriaca, era sempre lei. Jodie Foster sul Silenzio degli Innocenti, una voce razionale di un investigatore, di una poliziotta, di un certo tipo, impaurita, cioè qui una donna isterica con proprio marito, ma tre gradi diversi. Sì, tre sì, gradi diversi. E io non ti avrei riconosciuto, sinceramente. Accidenti. No, sulla S ti riconosco, sulla S. C'è qualcuno che mi prende in giro. Quando facevi la cabina telefonica con dottor V eri perfetto, continuo. Grazie, ti ringrazio, una bellissima giornata si sta profilando, meno male che è quasi finita. Ciao ragazzi, io vi adoro, ma adoro Game of Thrones, la guardo in inglese, le voci degli attori per me sono impagabili. Perché? Beh, allora diciamo sempre, se sai le lingue, guardala in originale, è come un libro. Se sai il turco Hikmet, leggi da un turco. Se sai lo spagnolo, García Lorca, leggi lo spagnolo. Certo. O Almodovar, vedi l'originale. Ovviamente il doppiaggio non vuole essere nient'altro che una traduzione. Esatto. Buona o no? Buona o no? È una traduzione, non è nient'altro. Rachele, a parte farmi tutti questi complimenti, grazie, Rachele. Ed essere, perché volevo dirti che, Rachele, per te Radio 24 finisce qui. Esatto. Rachele, grazie a voi. Vattene via, esci grazie, da questa stanza. Rachele. Torna a fare la caporedattrice di là e fai il tuo dovere. E comunque cambiamo. Quando torna la nostra Gaia, non si sa. Va bene. Che rossicone. No, va bene. Sei così. Un rossicone. No, ma sono il presentatore, è giusto che sia così. Quanto abbiamo in questo blocco? 2 minuti? Però volevo leggere questa bellissima. Oggi, visto che è il compleanno di Gianni Rodari, che non c'è più, ovviamente. Però all'inizio abbiamo aperto con Roberto Chevalier con una poesia. Qui ce n'era un'altra che mi piace molto, che è da grandi, e però per farla capire ai piccoli come. Va bene. Era lui. Allora, prego, Laura Boccanera. La sala d'aspetto. Chi non ha casa e non ha letto si rifugia in sala d'aspetto. Di una panca si contenta, tra due fagotti si addormenta. Il controllore pensa, chissà quel viaggiatore dove andrà. Ma lui viaggia solo di giorno, sempre a piedi se ne va attorno. Cammina, e sono guai. La sua stazione non la trova mai. Non trova lavoro, non ha tetto. Di sera torna in sala d'aspetto e aspetta, aspetta, ma sono guai. Il suo treno non parte mai. Se un fischio echeggia di prima mattina, lui sogna d'essere all'officina. Controllore, non lo svegliare. Un poco ancora, lascialo sognare. Brividi, bellissima. Che bella, è veramente un grandissimo Gianni Rodari. Fatelo leggere ai vostri figli o leggetelo ai vostri figli, che vi aiuta a capire tante certo, cose che magari sfuggono. Comunque tu Pino hai una voce fantastica, scusate, leggo qualcosa di me, è molto marcata, ti riconosco sempre e ti apprezzo, quello della cabina telefonica questo. Scusa se leggo qualcosa di me, no, perché parlava della cabina telefonica, invece qualcuno ce l'ha Corenzi da oggi pomeriggio, ma io non c'entro niente. A questo addirittura gli ignora, doppiatelo, ma non lo possiamo fare, non si può fare, non è colpa nostra, ognuno andiamo avanti così. Doppiare Renzi, allora siamo arrivati all'ultimo blocco e poi ci colleghiamo con tutti i convocati, e tanto la mia amica ovviamente è della squadra opposta alla mia, ma siamo ovviamente, amici, ovviamente, ma siamo molto molto amici, ma dimmi amici. Te questa state è una bella vincendo notizia. Sì, vince 2-1 la Lazio, incredibile, che bello. Ma sì, ma io sono contento anche se vincete questo, pensa che quella trasmissione democratica. Mosciamo, i laziali sappiano con te, i romanisti con te, no, i laziali con me. No, o ma laziali, io non se sa, no, ma no. Facciamo due corse diverse. Si vive in una società multilaziale, per cui ci accettiamo tranquillamente. Ma assolutamente a tra sì. Pochissimo, Voice Anatomy. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento. Voice Anatomy. Ah, signori eccoci. Miei, 16:47 e 4 secondi, stavolta ho posticipato, ne mancano ancora 52 per finire il minuto. E allora Laura Boccanera, eccoci. Insieme pronti. A me fino alla fine, che bello, sembra un film, insieme a me fino alla fine, bellissimo. Stasera. Su. Laura Boccanera, Pino Insegno. Signor. Non vede nessuno però così. 20 e 30, cioè, 20 e 45. È meglio. Ma ormai 21:30 è diventato, guarda. Messaggi belli per la Boccanera, tanti. Attenzione, eh. Ma questo è proprio arrabbiato. Ma non li leggi. No, però. Non sono quello della cabina, sono quello di Game of Thrones. Scusa Giacomo, va benissimo. Quello della cabina ancora non si è ripreso con me, ancora non mi ha chiesto scusa. Ma sto scherzando ovviamente. Di domande ce ne sono tante, ma tanto tornerai. Stavamo parlando con sì. Laura adesso e sarebbe bello fare blocchi di film ospiti, nel senso sì. Il gruppo Harry Potter. Sì. Allora purtroppo Gianni Musi non c'è, Silente se n'è andato in silenzio, che persona meravigliosa, Gianni Musi. Le voci dei grandi sotto vecchi, tutti gli aspetti. Sì, persona, attore straordinario, tutto, tutto. Era tutto Gianni Musi, ma tutto. Che bello in essere in scena con lui, nel senso tutto. In sala con lui, persona meravigliosa, durante il Signore degli Anelli lui era Gandalf, mamma mia. Adesso è poi musica. Sostituito dal bravissimo Gigi Proietti, ma Gianni era evocativo, musica. Ha una voce evocativa, musica. Sì. Pazzesca, sì. No, ci manca tanto. Molto. Ogni anno purtroppo ci saluta un sacco di gente, santa miseria. No, miseria. No, rimaniamo. Senti, c'è una qualche attrice, secondo me nessuna, a parte mia madre, hai doppiato tutto il resto, ma dico c'è un'attrice che magari che non hai doppiato, ti sarebbe piaciuto invece doppiare? Un'altra che magari fa una collega bravissima come può essere Emanuela, Domitilla, eccetera, eccetera. Ma posso no. Dirti di no? No. Te no. Tieni a me, io mi tengo no. Il mio dash. No, io ho un desiderio da sempre che mi sarebbe sempre, ma non potrà mai accadere, mi sarebbe piaciuto doppiare Rossella O'Hara. Ah, Via col Vento. Quello è il mio sogno. Beh, hanno ridoppiato quasi tante cose, magari, però certo, ridoppiare no. Lì chi era? Beh, no, all'epoca... Lui era Cigoli, c'era chi c'era? C'era Cigoli, lei era la Simoneschi. La Simoneschi. Che spettacolo. E che certe voci, in certe no, epoche, sono giuste ma quelle. Ma infatti rimane un sogno, però ecco per dirti cosa... Sono, altrimenti dovresti anche tu andare no, su quei suoni... No, era per dire che tipo, sì, di, che film tipo di film mi piacerebbe... E non li fanno più così, no, queste epopee. Quello, oppure anche come eravamo, quello con Barbara Streisand, Robert Redford, cioè la signora Maria Pia Di Meo. Beh, vabbè, come c'è una telefonata che tu dici va bene. Io, no, Maria Pia è pazzesca. Io cambio lavoro, era un po', era un po' giù di voce, diceva. Ma. Una cosa pazzesca. Ma no, lei poi cambia insieme a Mary Streep. Meravigliosa. Sì, Maria Pia. Una regina davvero. Sì, sì. Vittoria Febbi, un'altra persona. Ma ce ne sono ancora. Adesso sì, sì, non era per nominare. Fa un nome, no, io stavo realtà... pensando a chi non era ancora venuto ospite qui, e mentre Maria Pia è venuta, Vittoria deve venire. Non può non venire Jessica certo. Lange. Eh beh. con e quella... non solo, e non solo, anche sì, lei. Sì. Anche, no, devo dire che il panorama è vasto, è parecchio, ancora sì. C'è una nuova generazione pure che, come Aguilone, c'è cioè questi giovani, i ragazzi, certo. Anche se Criscentini non è così giovane, prendo sempre in giro che doppia Twilight lui però non gli assomiglia per niente, io dico sempre decisamente no, lì non è voce volto, no. Io dico volentieri perché siamo amici, per ma cui certo, non è esatto. Problema, mentre la bocca nera è voce volto, no, anzi meglio, magari. Sei più bella di Jodie Foster, oh. Pensa dai, che me l'ha detto anche Raul Bova. Hai capito? Raul Bova uscendo. Anche a me mi ha detto Raul Bova, sei più bello di lui. Mi ha detto, io dissi che bello, magari lui mi ha detto no, no, sei molto più bella tu. Beh, sei bella tu. Jodie Foster è Jodie Foster, per cui un personaggio lo sa, incontri per strada, non era Jodie Foster, è come se incontrassi Dustin Hoffman per io strada. No, no, e non io è Dustin Hoffman, dai. Ti posso dire bella. Che come ti guarda, adesso al di là della bellezza, no, poi io sono innamorata, quindi non faccio questo. Sì, non questo. Vale, certo. Però lei come ha due occhi, che come ti guarda, è pazzesco, ti proprio non... incredibile. Ma quella è l'inter... poi è piccolina, ragazzi. Magrolina, però ti guarda con quelli e tu non capisci più nulla, è vero, però ripeto, per io questo sono è Jodie Foster. Molto innamorata di lei, lo confesso spudoratamente. Attenzione perché lei potrebbe scappare con te. Anche io con lei volendo, chi può dirlo? Signori, nella vita mai dire mai. Alle 16.51 no, no, nel senso outing. Che no, no, assolutamente. Alberto, tu svia un attimo a era casa. Era per dire no, che no, nella vita mai no, dire mai, mai dire cioè mai. Tutto può succedere. Oh, a me se mi chiama John Travolta e Tom Cruise, io la scappatella, posso dire poi sono stato. E certo. Che, insomma, io un bacetto a John Travolta io ho dato. No, che devo fare? Che succede? Dimmi. Ah, c'è Capuano. Cara Laura, adesso ti collegherai un'emozione enorme con la trasmissione che viene dopo di noi, che è vista, ascoltata, amata, che è tutti convocati con i grandi giornalisti dello sport, che ci dicono i risultati di calcio, quello che è successo la domenica. Loro si chiamano anche Mai una gioia, per quanto mi riguarda. Vuoi che parto dall'ultimo evento? L'hai fatto, però te la sei un pochino, diciamo, no? Sta pareggiando. Te la sei un pochino, diciamo, come diciamo ma a Roma. Ma no, è lui, è lui. Ma scusami. Non credo nella sfortuna, quelle brutte parole sfiga. No, no, no, diciamo no. Che insomma. Però insomma, Mai una gioia si riconferma tale in questo momento. Beh, Mai una gioia, posso dire. Facciamo cronaca. Ma che ha pareggiato al 94esimo a Torino? Ha pareggiato al 92esimo, quindi c'è ancora tempo. Non è possibile. Su che? Su rigore, su mano? Calcio di rigore degli Aic. Fallo di mano di Parolo, ma ti dico che ci sarà da discutere. Però volevo ricordarti che settimana scorsa, carissimo Pino, ti ho lasciato dicendo manca ancora un minuto. Dai, allora forza. La Lazio era sotto. Non è finita. E poi... Va bene, no, sto leggendo qualcuno. Il doppiaggio di Indiana Jones mi è piaciuto, ho fatto io. Vabbè, Giacomo, lascia stare. Va bene, che dovevamo fare? Dovevamo ridoppiarlo. Va bene, scusami, Capuano. 2-2, manca un minuto. E l'altra settimana no, è finita. Toro Lazio è finita 2-2. Grazie. Chi ha segnato della Lazio? Scusami. Dunque, della Lazio aveva segnato Immobile il gol del pareggio perché era andato in vantaggio il Toro con Iago Falk. Tra l'altro, un gol bellissimo quello di Immobile, una mezza rovesciata. Poi il 2-1 a 6 minuti della fine l'aveva fatto il giovanissimo Murgia, colpo di testa, è entrato da pochissimo, classe 1996, questo è il weekend dei ragazzini, è vero, considerando anche quello che è successo ieri, però poi è arrivato questo pareggio di Ljajic, calcio di rigore concesso da Giacomelli, ma c'era questo rigore, ripeto, ci sarà da discutere, c'è questo fallo di mano di Parolo che in realtà è girato di spalle, braccio abbastanza largo, però sinceramente prima, Pino. È abbastanza vicino a chi calcia il pallone e secondo me non ci sono tutti gli estremi della volontarietà. Però, non so, qui vai interpretazione, come si chiama? Sono 5 gli arbitri che vanno a interpretazione, sembra un film. Esatto. Interpretazione di tutti. Quello ti richiama mentre sei tornato a casa, hai fatto la doccia, dice guarda no, è rigore, ritorni in campo. Vabbè. Gli altri risultati, Capuano? La notizia è che l'Inter è a 30 secondi dall'ennesima sconfitta, è sotto 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta, Masiello nel primo tempo, punizione di Eder, bellissima, il pareggio per l'1-1 e poi a 2 minuti dalla fine calcio di rigore di Piniglia, netto, fallo di Santon su Kessié e quindi qualcuno torna in Olanda, va bene. Veloci mi dicono che tocca a voi dopo. Poi, Crotone-Napoli 1-2, non è ancora finita. Calleon Maximovic e Rosi 3-5. Cagliari-Fiorentina è successo di tutto. Di Gennaro, tripletta di Kalinic, doppietta di Bernardeschi 5-1. Poi il Cagliari è rientrato 0-0. Empoli-Chievo, ma si sta ancora giocando. Va bene, grazie come sempre di riconfermi. Ma una gioia, te devo salutare. Corsa non è che non è mancanza di educazione, ma proprio ti odio. Va bene. Ciao a tutta la redazione, tutto Milano, grazie a Laura Boccanera. Grazie a voi. Rachele, no, grazie non a te, grazie Alessandro, grazie come sempre Alessia Navarro e Mauro Meconi, i nostri autori, grazie a tutti. E grazie a domenica a prossima, ciao. Ciao, grazie.